Va bene, allora, siamo qui stasera per parlare di un fantastico libro che è qua, che è Millennium Bug, scritto da alcune compagne e compagne di Indie Media, come mi è stato fatto notare giustamente nei giorni scorsi. Ho scritto male l'evento di questa chiacchierata. Indie Media cos'è? Lo faccio raccontare a loro e basta, facciamo una cosa super light e poi le domande vengono dopo. Prego. Vabbè, ripartire da Indie Media, nessuno di voi lo conosceva? Sì, qualcuno lo conosceva molto bene, perché mi sembra dalle facce, qualche faccia amica la conosceva. E quindi vabbè, di fatto Indie Media non esisteva più dal 2006, però tra il 2000 e il 2004-2006 soprattutto è stato più grande network di informazione indipendente a livello globale, molto probabilmente, perché nasce a Seattle nel 99 in occasione delle proteste appunto del 99, e poi sono cominciati ad allargarsi questi nodi fino ad arrivare anche in Italia. In Italia è nato un po' come uno scherzo, doveva essere proprio un gioco, c'erano comunque in realtà le competenze tecniche a Bologna, in questo caso, per poter mettere in piedi il sito è stato messo in piedi in occasione del NOOXE, sempre nel 2000, giugno 2000, grazie. E poi a un certo punto ci siamo ritrovati questo strumento che aveva delle potenzialità grandissime, ma era potenzialmente vuoto. Quindi da Bologna l'onda si è andata ad espandere ed è arrivata a coinvolgere quelli che erano soprattutto la comunità che era intorno che stava nascendo, che era nata in quegli anni intorno all'Hack Meeting. Quindi il primo Hack Meeting è stato nel 98 a Firenze. E continuano ancora ad esserci gli Hack Meeting, quindi insomma una comunità che è piuttosto viva, e ha attirato dentro soprattutto quelle che erano le comunità di autistici inventati, di cui un pezzetto a Milano la dovreste conoscere molto bene, perché Autistici nasce qua e con i toscani degli inventati. Diciamo che è stata un po' questa l'anima, quantomeno tecnica, che ha permesso la creazione di quello che poi è stato Indie Media in Italia, e la parte tecnica. Ovviamente poi dentro sono confluiti un po' una serie di altre anime, che erano sia i videomaker, che poi possiamo chiamare anche media attivisti, che hanno cominciato proprio in quegli anni ad animare le piazze, e tutta una serie di persone che hanno voluto fare Indie Media, perché Indie Media non si era di Indie Media, si faceva Indie Media, era un po' questo, no? La cosa sempre, e chiunque poteva fare Indie Media, per come la vedevamo noi, anche l'ultimo che scriveva un commento, un post, comunque in quel momento stava facendo Indie Media. Quindi Indie Media si presentava proprio come uno strumento di tutti. E la cosa particolare, cioè, che fu in qualche modo rivoluzionaria, è stato il permettere di fare una pubblicazione aperta. Cioè, stiamo parlando comunque di inizi 2000, non c'erano gli smartphone, i cellulari erano pochissimi, gli sms erano cari, cioè costavano, cioè a me veniva caricato il cellulare a Genova proprio per questo motivo. Per poter comunque aggiornare una qualsiasi cosa bisognava ad arrivare un computer, ad avere la rete a disposizione. E soprattutto il tipo di comunicazione che veniva fatta anche in quel momento all'interno del movimento era un tipo di comunicazione verticale, ovvero erano le varie aree o i vari posti che parlavano delle loro cose. Sì, esistevano altri siti che facevano anche controinformazione così, ma l'aggiornamento era delegato a una persona o un gruppo gestionale. C'erano delle mailing list, che erano quelle attraverso cui passava la comunicazione in quei momenti, ma anche quelle erano essenzialmente, diciamo, una più verticale, che era CS, dove si mandavano essenzialmente i comunicati. Poi c'era quella follia di mailing list aperta, che era movimento, che probabilmente qualcuno forse si ricorda ancora, eppure là era abbastanza pieno di flame. Indie Media arriva e spariglia tutte quante le carte in tavola. Il sito era composto da una parte, da una colonna con tutti quanti i link, la parte centrale che era quella delle feature, che erano quelle che realizzava il gruppo gestionale, che si raccoglieva intorno a una mailing list inizialmente, poi divennero un tot. Mailing list aperta a tutti, dagli archivi pubblici, e chiunque voleva partecipare bastava che si iscrivesse a quella mailing list. Era tutto dentro, ci poteva essere di tutto e andava bene così. E poi c'era la vera parte rivoluzionaria, che era la colonnina di destra, che era il Newswire. Il Newswire era il regno dell'open publishing. Open publishing significava che chiunque poteva arrivare, prendere e pubblicare qualsiasi cosa, non c'era bisogno di registrazione, non c'era bisogno di dare i propri dati, bisognava semplicemente scegliere un nick e scrivere e mettere le proprie informazioni, che è una cosa che è completamente differente rispetto a quella che adesso succede sui social anche, no? Per cui comunque in qualche modo se tu devi, se ti iscrivi, i dati li devi dare. E il momento massimo di esplosione di Indymedia arriva da Genova in poi. Quello è stato il momento in cui il nodo italiano ha iniziato a crescere, ad avere anche una visibilità molto grande a livello internazionale, e fino al 2004 è stato un'esperienza potentissima, tanto che a un certo punto anche i media tradizionali o i media mainstream sono stati costretti a venire ad attingere, a prendere il materiale, perché per come eravamo fatti, per come funzionava Indymedia, ovvero dentro Indymedia c'era di tutto, non erano semplicemente una, in un momento in cui si cominciava a dividere in aree politiche, basta anche solo pensare, no, alle varie piazze tematiche a Genova divise in blocchi, dentro Indymedia c'erano tutti, il che presuppone una diffusione capillare proprio su tutto il territorio, quindi avere informazioni e averle nel minor tempo possibile per noi era molto più semplice. Era fatta da attivisti e quindi succedeva anche, ci sono anche dei casi molto particolari tipo quello in Palestina della seconda intifada, in cui un gruppo italiano proprio partì, andò in carovana a Deisce, si ritrovarono in mezzo alla seconda intifada, un bel attacco dell'esercito israeliano, rimasero chiusi nel centro culturale dove erano ospiti, in parte si trovarono a fare interposizione quando i carri armati dell'esercito israeliano arrivavano proprio ai limiti anche del centro culturale, ma contemporaneamente facciamo informazione. I giornalisti in quel campo. Perché tu ti ricordi come si chiamava il centro culturale? Libda. Libda. E in quel momento, cioè, praticamente la stampa internazionale non c'era più, o si erano chiusi in un albergo a Ramallah o erano scappati dai territori, quindi l'unico tipo di informazione che arrivava grazie agli attivisti di Indymedia che erano presenti là e che non soltanto facevano dei video ma facevano anche degli audio e ci passavano le informazioni a chi invece era rimasto in Italia e che praticamente ha continuato a lavorare 24 ore su 24 per aggiornare il sito, anche grazie alle continue connessioni che avevamo con le radio, perché comunque non potevamo arrivare ovunque scrivendo, e quindi il lavoro con la radio era abbastanza fondamentale. E quello è stato un caso eclatante, perché a un certo punto anche l'ANSA se ne uscì con un lancio ringraziando il lavoro fatto da Indymedia e da Radio Onda Rossa, che in quel momento avevamo trasformato in un media center aperto 24 ore su 24, senza di cui quelle informazioni non ci potevano essere. L'idea del libro era perché questa storia non è mai stata raccontata, perché a un certo punto è sparito, non per volontà, ma è successo, Indymedia non era più online, non c'era più nemmeno dei backup, e questa storia comunque andava in qualche modo raccontata e aveva un senso farlo a ridosso del G8, del ventennale del G8, perché se non ci fosse stato Indy la narrazione sarebbe stata completamente differente, sia da un punto di vista non soltanto di movimento ma anche rispetto a quello che sono stati i media tradizionali, ma anche a livello processuale. Quindi aveva senso restituire quantomeno una fonte storica e ridare un pezzettino di storia. Il libro è una cosa un po' particolare, l'abbiamo curato in un po', l'abbiamo scritto in tanti, perché è essenzialmente racconti orali, storytelling, è una serie di contributi dove ognuno mette il suo punto di vista e racconta quelli che sono stati gli anni più d'oro, diciamo, quelli che ci hanno visto partecipare, intensi e in cui ci siamo anche divertiti tanto, fondamentalmente. Invecchiati? No, facciamo così, perché ho capito che qua bisogna fare così, perché sennò No, allora, vai. Io non è che non voglio parlare, io non voglio parlare nello specifico del libro, perché quando mi è stato proposto nello specifico di fare un'intervista, comunque di fare il mio racconto orale, ho preferito rispondere che no, non lo volevo fare, perché nella mia memoria Indymedia era una parte importante delle attività che mi coinvolgevano, ma pensavo che fosse un po' più laterale rispetto a autistici. Autistici.org era il progetto che seguivo principalmente, diciamo, o Chain Workers, che era un altro tipo di lavoro che facevamo sulla precarietà, o il lavoro che avveniva prima al Bull e poi in Pergola, quindi di gestione dello spazio, eccetera. Per cui Indymedia per me era uno strumento, ho contribuito in tante varie forme, ma non mi sentivo uno di quelli in editorial che aveva fatto tutto il percorso di capire come essere un media usando delle formule completamente diverse dai media tradizionali. E editoria della lista, sì, da attraverso cui venivano scritte le feature, la colonna centrale. Esatto, i contenuti delle feature io tendenzialmente non ero tra quelli che stavano lì a dibattere di quella parte che era più giornalistica e di inchiesta o di ricerca di fare informazione. Ero più sulla sponda tecnica. E penso che la storia che mi ha riguardato è una storia che è iniziata dagli anni 90, in cui c'era la fine del millennio, internet nasceva, e c'era Decoder che faceva controcultura e parlava anche di questi aspetti, no? del fatto che ci fosse Linux, il free software, tutta una serie di tematiche che erano nuove all'inizio degli anni 90, ma che Decoder già introduceva e ci faceva conoscere anche i rave, ci faceva conoscere un sacco di cose importanti che sono state la nostra formazione, in quanto eravamo la generazione appena più piccola, diciamo, di quelli che scrivevano in Decoder, e ci abbeveravamo lì. E in conchetta c'erano il BBS, che era un altro modo di accedere a internet prima che fosse l'internet che conosciamo, anzi prima che venisse l'internet che voi non conoscete, perché adesso c'è un'altra internet ancora secondo me, ma lo vado a sviluppare adesso il discorso. E quindi se pensiamo, torniamo agli anni 90, possiamo pensare che anche a metà degli anni 90 c'è il fenomeno dello zapatismo e del fatto che iniziano a usare internet anche per dire le loro cose, no? E questo ci dava degli elementi formativi, no? Di vedere che nell'internet non c'è soltanto l'hype tecnologico, ma ci sono delle possibilità anche politiche, no? Erano ingredienti che andavamo raccogliendo, ma non avevamo ancora fatto niente noi, era prima di noi. Subito dopo questi fatti, dal 98 in poi, in Italia c'era una comunità di smanettoni, di hacker, chiamateli come volete, che ovviamente si abbeverava dalla parte culturale, da Decoder, da questo tipo di cultura underground che emergeva, dal cyberpunk, da questo filone letterario dagli anni 80, questo, e ci trovavamo ad adottare Linux per primi, no? Quando ho avuto il primo computer c'avevo un 486, c'avevo Windows, il DOS, avevo queste cose. Poi sono passato a Linux perché l'accesso a internet, la possibilità di andare in internet, che ho scoperto in università, non ce l'avevo a casa, per dire, no? Gli anni 90 internet non è che c'erano tutti a casa, chi ci aveva il computer a casa erano pochi. Io sono riuscito a comprarmi un computer con calma, e il computer all'epoca era uno strumento che potevi smontare, rimontare, ed era l'unica cosa di tecnologico che avevi in casa, non c'avevi il cellulare come ci abbiamo adesso, il mobile, eccetera, no? Per cui potevi imparare a vari livelli, e soprattutto internet non era quello che è adesso, ma era un posto abbastanza vuoto, c'erano spazi da riempire, di possibilità da inventarsi, perché quando ho iniziato io internet era vai, leggi una pagina web scritta da un webmaster che sa come scrivere l'HTML, sa come pubblicarlo e comprare un dominio, cioè internet la dovevi fare, ok? Internet era qualcosa da scoprire, chi aveva intenzione di scoprirla c'aveva tutto davanti da fare. E abbiamo, senza parlare solamente di noi, per esempio la generazione di Napster, no? La scoperta del fare il peer-to-peer è una delle implementazioni dell'innovazione iniziale, in cui tutto è abbastanza ancora anarchico e si va per quelle che sono le capacità di alcuni programmatori di creare delle nuove possibilità tecnologiche, inventarsi un protocollo come quello di BitTorrent per far andare più veloce la rete, che sapevamo che era lenta all'epoca, e c'era un problema proprio che la banda era lenta, anche fare una trasmissione audio video sembrava too much nel 97-98. Poi dopo è arrivato real video, real audio, è iniziato lo streaming, ma di nuovo le grandi multinazionali o comunque grandi soggetti capitalistici non c'erano massicciamente presenti. Nasceva magari eBay all'inizio, ma era ancora un baratto, un mercatino. Si parlava di tutte queste cose come di c'è un mondo di possibilità da scoprire, no? Questi erano gli anni 90 per noi, e quindi con la comunità hacker c'era la possibilità ovviamente di andare deep down nelle conoscenze, no? di approfondire di molto le questioni, padroneggiare i vari linguaggi che permettevano l'accesso alla rete. E sono quindi 98-99, sono gli anni in cui appunto, no, la comunità hacker italiana sentiva il bisogno di ritrovarsi fisicamente, di rappresentarsi e di dare spazio a una visione altra rispetto al concetto di hacker. All'epoca il problema era internet, ma ci sono anche gli hacker, quelli ti rubano tutto, sono pirati, un disastro. C'erano stati anche dei periodi, c'erano stati anche dei crackdown nella comunità hacker italiana, perché prima ancora della vera Inter c'erano già state delle altre attività fatte sulle BBS eccetera, gli hacker esistevano anche in Italia, erano pochi ma esistevano, e l'hack meeting era il posto in cui cominciavano a farsi vedere, a dire siamo un soggetto e non siamo solamente come ci raccontano i media. Nasceva un po' anche da questa voglia di fare hack meeting, e poi è nata invece una comunità da questo incontro che era sul territorio fisico e la gente stava insieme. E questo ci ha permesso di elaborare concetti come ok, c'è la rete, cosa vuol dire la rete, stare in rete su internet, ma cos'è la rete anche di rete di relazioni, di persone, di soggetti politici per fare delle cose politiche. A quell'epoca l'unico strumento di movimento reale era ECN.org, no? come soggetto di movimento che si prestava come avanguardia rispetto all'utilizzo di internet, no? E facevano questo lavoro già dai tempi delle BBS. Noi siamo la seconda generazione da questo punto di vista, nel senso Autistici.org nasce come necessità nostra di avere un nostro spazio dove sperimentare, avere il nostro server, e la nostra paranoia non era soltanto di avere il computer, la nostra paranoia era anche cazzo, dobbiamo metterlo in un data center che non è nostro, no? Cioè avremmo sognato di averci abbastanza banda, di avercelo nel nostro centro sociale, perché la nostra piattaforma la volevamo proteggere dalle possibili censure, dai possibili attacchi eccetera. Non era possibile, dovevamo andare nei data center, questo era il compromesso da fare, però tutto il resto lo volevamo controllare e gestire dall'inizio alla fine, dall'installare i pezzi hardware a installare il sistema operativo, qual era il livello di sicurezza da implementare per le varie cose, e poi creare la piattaforma e poi creare la possibilità di comunicazione per i non esperti. Io ho partecipato al periodo storico del 99, 2000, 2001 con il LoA Club, e uno dei nostri compiti era quello di fare corsi di informatica per la gente. Conosci Linux, conosci la programmazione C, conosci l'HTML, conosci i vari linguaggi che compongono quella che è per la nostra comprensione di quell'epoca del computer e di internet, per diffondere una possibilità a tutti, non rappresentare un'elite che sapeva delle cose, ma eventualmente socializzare saperi senza fondare poteri, che era un mandato che noi avevamo assunto al nostro slogan, che arrivava da Primo Moroni. Quindi di nuovo si torna a Conchetta, si torna da quelle che erano le briciole che abbiamo raccolto nei primi 90, poi siamo arrivati alla fine, dopo 10 anni avevamo capito delle cose e volevamo metterci in prima fila, e ci siamo messi a fianco a ECN. Quindi abbiamo detto facciamo Autistici, perché ECN non può essere single point of failure, no? L'unico posto su internet di tutto il movimento italiano, sono cazzi se tirano giù quella macchina, mettiamoci a fianco a loro. Ed essendo noi arrivati appena dopo di loro, ed essendo molto più diciamo nativi digitali rispetto al collettivo di ECN, che aveva elementi che avevano una storia ancora più lunga, no? di militanza politica anche più tradizionale, noi abbiamo rotto un po' questo schema. Quando ci siamo presentati abbiamo proposto di essere anche noi dei soggetti presenti, eravamo molto più legati alle tematiche di rete, di aprirci a tutti, non dovevi essere per forza un compagno di movimento per avere la mail @autistici.org, chiunque, facciamo dei proclami anche politici a quel punto di apertura, per cui siamo sì dei centri sociali, ma l'anonimato è importante, la sicurezza dei vostri dati, la privacy, queste questioni le portavamo avanti, diciamo devono essere per tutti, sono diritti universali. Quindi l'approccio dei Autistici, da macchina del movimento che fa servizi al movimento, diventava rivendicazione politica su come utilizzare gli strumenti digitali e aprirsi a un pubblico di neofiti, e quindi formazione negli e-club, servizi online e proporre un certo tipo di discorso. Questo noi non lo sapevamo, ma era di nuovo solo un passaggio per noi, per poi arrivare a Indie Media, dove c'è una maturazione ulteriore della dimensione di fare rete, fare politica. E siccome venivamo dagli anni 90 di Berlusconi, delle televisioni, non credere nei media, anche lì un'altra adozione che arrivava dal passato era non odiare i media, Silo, che arriva da Gello Biafra, no? Essilo è come l'abbiamo tradotto noi, però no, vabbè, l'italiano ce lo siamo giocato quel giorno. le canne vincevano su queste cose, ci piaceva, ci faceva ridere, va bene. Comunque l'abbiamo fatto di cercare di convincere anche le realtà di movimento che si occupavano di media, tipo le radio di movimento, che la presenza su internet poteva avere un gioco importante. Era da un paio d'anni che si giocava a fare lo streaming audio, e quindi per noi era il gancio con le radio, era raga, la radio sì su antenna, ma può andare anche su internet, e le radio potrebbero anche scambiarsi delle cose via internet e creare dei network tra le varie radio indipendenti che ci sono in giro per l'Italia. Queste cose non venivano subito capite, perché noi arrivavamo con un linguaggio estremamente più tecnico, se vogliamo, o comunque noi pensavamo di essere divulgatori, ma non lo eravamo abbastanza, perché non eravamo subito compresi nelle intenzioni. Però poi i fatti ci hanno permesso di trovare la formula per cui ci fosse comprensione tra le parti, e il percorso di avvicinamento a Genova è stato quel luogo in cui gli incontri fatti hanno fatto sì che si capisse che c'era l'esigenza, che Genova sarebbe stato un evento mediatico, fortemente mediatico, e noi non potevamo permetterci di essere in mano alle agenzie mainstream per fare che la narrazione fosse la loro e basta, perché la nostra sappiamo che quando passa quel filtro ne esce distorta. E allora noi di nuovo, come si può dire, tenere in mano i propri strumenti, averne la proprietà, diciamo, la capacità di gestire dall'inizio alla fine, ci ha permesso di arrivare a un punto per cui le radio capivano l'opportunità di internet e dello streaming per collegare le redazioni con Genova, e si capisce che si vuole fare un media center a Genova, non solamente averci il cellulare e fare la telefonata con la corrispondenza, ma averci proprio un media center dove tutti convergono. E anche lì la comunità hacker italiana ha trovato i volontari che sono andati a tirare i cavi, a mettere i computer con Linux, quindi la gente poi dice porco Dio c'è Linux, cazzo come si usa sta roba, Dio cane, da anni, guarda sì, adesso ti installano Bunsen. Ecco, cosa impari. Insomma, con la nostra difficoltà magari di riuscire a far capire che sì, c'è un gradino di conoscenza da affrontare, perché all'inizio se non hai quello non hai la piena comprensione di cosa cazzo succede là dentro, ma quando fai quel passaggio di lavoro insieme, io ho fatto scienze politiche, non sono un informatico nativo, semplicemente la curiosità e il fatto che ci fosse una comunità intorno ha permesso che diventassi anche un informatico, lo faccio anche di lavoro oggi. Ma era l'epoca del si impara facendo, e nei centri sociali si impara facendo tutto, non solo i computer, tutto è vita tutta a 1000 gradi, no? E noi in quel percorso ci siamo trovati a essere quelli che hanno fatto il media center e averci Indymedia come uno dei soggetti che stava lì dentro, quindi c'era poi anche Carta Diario, c'erano anche Macaia, c'erano anche altre realtà che venivano lì, no? Sherwood, you name it, tutti più o meno, no? Il media center era il media center che avevamo a Genova ed era cablato e permetteva a tutti di andare là e postare delle cose, che era importante, all'epoca non era scontato poterlo fare. E da lì è nato il discorso di Indymedia come rete di soggetti, come progetto che andava nelle intenzioni comunque a esplorare il mondo del media con dinamiche completamente diverse rispetto ai media tradizionali. Redazione chiusa? No way. Mailing list pubblica e anonima, dei pazzi scriteriati volendo, ma la realtà fa sì che in realtà, per quanto fosse pubblica e anonima, poi Indymedia erano persone fisiche dislocate in tutto il territorio italiano che andavano poi anche a incontrarsi in piazza per fare le cose. C'era gente che faceva politica nei centri sociali in varie forme, discuteva magari col Nick eccetera, ma poi c'erano i momenti face to face e ricostruivi un po' che cosa stava, chi era chi e cosa succedeva, no? Almeno internamente. E questo era un mettere in discussione un approccio alla redazione che doveva essere invece più reticolare, più, you know, aperto, diciamo così, a influenze, a dibattito, e quindi le censure erano i soliti paletti che ovviamente ci danno subito una reazione di fermo lì, che sono l'antifascismo, l'antirazzismo, l'antisessismo, gli anti-anti-anti che conosciamo tutti e che si applicano in un centro sociale, non è che applicavamo regole tanto diverse, se vogliamo. Qua dentro uno può dire il cazzo che vuole e nessuno pensa di andarlo a dire alla polizia. Noi pensavamo di essere su internet e chiunque poteva dire il cazzo che voleva, eccetto certi paletti che sappiamo tutti, perché vieni qua e dimmi viva il Duce, vediamo come esci. Lo sappiamo, no? Sono cose ovvie, ci sembravano ovvie. Però a parte quello non c'erano altre limitazioni. E questo ha fatto sì che all'inizio Genova rappresentasse il momento più mediatico per il movimento italiano da sempre, e che ci fosse il problema a un certo punto di dire ok, adesso bisogna vedere se la nostra forza è anche quella di proseguire nella narrazione, nella nostra narrazione di Genova, anche su altri piani. E da una costola di Indymedia è anche nato supporto legale a seguire, no? Quindi Genova non è finita, c'è ancora gente in prigione per questo, ok? Quindi non è finita, e delle persone finite in galera e del fatto che sono ancora dentro non ne parla un cazzo di narrazione ufficiale, ma da nessuna parte. Cioè, se parlano, parlano dei black bloc che nessuno li ha mai presi, nessuno gli ha mai fatto un cazzo e sono la colpa di tutto. Una narrazione un po' sterile delle difficoltà e del movimento dei movimenti. C'erano tante anime, non eravamo una cosa sola uniforme e omogenea, c'erano tante parti diverse e alcuni in contrasto tra loro anche, ma sull'appuntamento di Genova le piazze tematiche erano il modo per evitare probabilmente i contrasti, che i contrasti diventassero evidenti lì. È stato un macello per altri motivi, non solo per le nostre intenzioni, e ci siamo trovati con questo strumento e la possibilità di, con i materiali che avevamo, di andare a fornire il materiale audio video alla segreteria, cioè agli avvocati che seguivano questi processi. Quando c'erano le udienze c'era da preparare il materiale per l'udienza XY, questa persona è stata beccata in questa via a fare queste cose eccetera, vai a cercare il video, vai a trovare cosa è successo prima, cosa è successo dopo, perché e il video è stata un'arma a doppio taglio per noi, perché appunto ti metti, parti che vuoi fare lo smanettone con internet, ma poi ti metti a fare il media mainstream alternativo, nel senso che non mainstream ma il media ufficiale, diciamo, del movimento, e ti trovi a dover ragionare di il video, come gestirlo, come, quando è opportuno filmare in una piazza, quando non è opportuno filmare in una piazza, il problema che se fai un archivio fisico di materiali mini DV, perché all'epoca non è che filmavi e pubblicavi, c'avevi la mini DV, poi la dovevi importare, eccetera. Gli archivi di sta roba, c'è stato un sequestro al TPO, quello è un errore, non è che Indymedia ha fatto tutto giusto, noi abbiamo imparato facendo un sacco di errori anche. Però sappiamo anche che, non lo so, per esempio i video, dal momento in cui inizi a filmare una scena e il momento in cui lo interrompi, dai un senso in quello spazio di tempo, perché vedi delle azioni a venire, ma non sai cosa c'è stato prima, non sai cosa c'è stato dopo, e potresti raccontare che io ho menato lui ma non hai visto che lui tentava di accoltellarmi un minuto prima perché io non l'ho filmato, no? Quindi c'erano i problemi di questo tipo, cioè cosa tenere, come farlo, come pubblicarlo, eccetera eccetera. Però avendoci tutto quel materiale, per esempio tornati da Genova, nel giro di 15 giorni si è fatto il primo aggiornamento su Indymedia, cioè su Indymedia, sul G8, da parte dei videomakers che avevano collaborato con Indymedia, che erano Indymedia in quel momento, e quel video, aggiornamento 1, è andato alla Corte Europea, e se l'Italia ha avuto una condanna è anche per quel video. Quindi certe, o se le Molotov è stato scoperto che non erano come si dice, non erano state trovate dentro la Diaz, non erano state trovate dentro la Diaz, ma erano portate dalla polizia, perché qualcuno è andato a cercare tra tutte le ore di video anche le immagini in cui si vede lo sbirro col sacchetto e le cazzo di Molotov prima di tutto quanto, no? Quindi averci questa forza di poter ribattere la loro narrazione e di poter dimostrare delle cose, sì, abbiamo preso magari delle gran batoste, ma qualche vittoria minima, qualcosa. Se l'Italia ha dovuto mettere una legge sulla tortura che fa cagare e che andrebbe cambiata, però è perché ha preso quella condanna anche partendo dall'aggiornamento 1. Quindi sti cazzi, qualcosa di buono c'era nel fare questi ragionamenti. E però appunto non tutto viene bene, e certe cazzate si fanno, appunto averci un deposito in un posto e poi che la polizia lo scopre qual è e ti viene a prendere un sacco di materiale, poi le procure si divertono a guardare quei video perché tu non li hai censurati. Chi ha fatto le riprese magari era la prima volta che faceva le riprese per il movimento, non c'era una cultura di come fare le riprese in piazza in modo che le cose siano quelle che servono veramente e non permettere magari altre interpretazioni, no? E sono tutti problemi che noi abbiamo dovuto affrontare. Altri problemi che hanno portato invece poi al logorio di questa esperienza è stato il fatto che se c'è stato il primo boom con il G8 di attenzione, quindi poi tutti si sono riversati a utilizzare questo strumento, poi c'erano i distinguo, Global Project aveva la Radio Sherwood, allora avevano anche la loro piattaforma, non è che volevano solo stare in Indymedia, nascevano, no, non ci voleva stare proprio. E immaginate una proposta che nasce dall'idea di rizoma, orizzontalità, soggetti che si possono aggregare, fare rete e potersi rappresentare usando uno strumento che sappiamo che il movimento, o comunque soggetti di movimento, ne detengono il controllo fisico e di tutto quello che ci passa sopra, quindi la piattaforma è nostra, no? È un'estensione del nostro centro sociale lì su internet per dare visibilità ai nostri percorsi, e tutti i percorsi politici potevano usufruire di questo megafono o comunque vedersi tra di loro. Quindi tu magari ti occupavi di un tema e vedevi che qualcun altro aveva postato su Indymedia dello stesso tema, e poi crei una relazione perché lo vai a cercare chi ha scritto quel post, perché c'è il comunicato del soggetto XY, e ci puoi fare rete e scopri che tu lavori a Milano da solo su sta roba e pensi non ce la farò mai, e scopri che poi c'è una Bologna, che è allora la relazione ti incentiva magari a lavorare e a creare qualcosa di più grande. Io non so come interromperti, quindi lo faccio così. Bravo. A posto. Grazie. Chiedo scusa, ma ho preso il secondo. Grazie. Grazie. Ma la cosa è peggiore, perché adesso faccio una domanda, così si ricomincia. Vai. Magari cominciamo da Tibi, eccetera, poi tornerà. Allora, noi abbiamo un rapporto, cioè accennavo prima mentre eravamo a cena circa, riguardo alla mediattivismo, cioè noi magari come Zamba abbiamo una particolare predisposizione legata alle persone che sono qui, non siamo troppo per il mediattivismo, si fa molta fatica a trovare chi di noi parla, chi di noi fa il video, chi di noi fa le foto, siamo un po' migliorati, però insomma abbiamo dovuto un po' sforzarci per avere il wifi qui perché era importante, compagni facciamo, c'è un computer eccetera. E secondo me, anzi non secondo me, secondo noi, e questo l'abbiamo affrontato come redazione della radio, c'è stata tutta un'evoluzione, un'involuzione dell'uso dei media in 20 anni. Cioè se a Genova i primissimi con le telecamere erano per fortuna degli attivisti, delle attiviste che volevano riprendere quello che succedeva, adesso, cioè, e si utilizzavano quindi tutti i mezzi della comunicazione, le mailing list, internet, come la cosa nuova, il territorio inesplorato per andare a trovare qualcos'altro, cioè un altro luogo dove fare meglio, so come dire, la diffusione di concetti, di saperi nel mondo, collegandosi appunto prima col Chiapas eccetera eccetera, ad oggi forse in realtà i movimenti soffrono tantissimo di un po' di ritardo tecnologico, di utilizzo, di conoscenza dei metodi, so come dire, informatici. Cioè adesso un corso di informatica qui a Zamba non ce lo siamo nemmeno mai neanche immaginato, e Dana ha dovuto bestemmiare per insegnarci a utilizzare Bunsen Labs, che non fosse tanto apri MixXX e vai a utilizzare il software per la radio. Per cui la cosa che vi domandavo adesso, così arriva una domanda che ha un senso, era per voi che avete fatto parte, cioè avete fatto proprio parte della comunicazione dei media via internet nei primi anni del 2000 ad oggi, cioè in questi 20 anni, cosa è cambiato e perché i movimenti sono un po' usciti dalla capacità, non hanno più avuto la capacità di esprimere cose intelligenti sui media? E poi faccio una domanda, così deve intervenire anche Anai, così minaccio e dopo ci deve ascoltare per forza, sappilo. Adesso non ti può più distrarre, eh? Prego, scusate. Ah, la fai dopo ad Anai. Ad Anai dopo. Sì, no, dopo ne faccio una a voi, che poi Anai sarà lì così e che frigge, che vuole intervenire. È un po' strano parlare in un microfono senza sentire il ritorno. Sì. Comunque, vabbè, cioè uno dice, boh, ma allora prendo un'asticella, qualcosa. Ah no, devo alzare la voce per voi, appunto, ma diventa difficile perché avendo un microfono in mano uno non ragiona in questi termini, no? Ok. Allora, mi lanci proprio la cosa giusta che volevo infatti dire io. Allora, quello che ti posso dire io, che ho figli ventenni, è che nonostante loro siano della generazione, come tutti i media dicono, tutti quanti dicono, no? Sono quelli, la generazione digitale, no? Dovrebbero essere smanettoni che sanno tutto. Allora, siamo ancora al livello che molto spesso ne so più io di loro, ok? Ma perché? Perché io ho imparato a pormi dei problemi quando usavo il mezzo, ok? Cosa che invece le generazioni digitali non si pongono, cioè loro usano il mezzo e basta, senza porsi alcun problema. Secondo me questo è il motivo anche per cui poi abbiamo delle, come si chiamano, dei digital divide di comunicazione, sto parlando principalmente, all'interno degli spazi sociali, perché nessuno si è più fatto delle domande su come utilizzare i media. Ok, per cui poi negli spazi sociali, avendo una naturale negativa propensione nei riguardi nei media tipo Facebook, Instagram e le cose che usano tutti, si usano ovviamente a livello personale, ma poi ci si fa dei problemi a usarli a livello collettivo o di centro sociale. Questo è di nuovo appunto un problema di incapacità di gestire questi mezzi con un criterio di responsabilità e di analisi, perché è inevitabile che se tu hai questo media senza aver saputo niente prima di che cosa c'era prima e cosa non c'era, come avrebbe potuto funzionare diversamente se le cose fossero andate in un altro modo, lo usi in quel modo lì, per cui è quello e basta. E se sei critico rispetto a quello basta, non lo usi o lo usi male. Quello che è stato bello di Indie Media invece è stato proprio che ci ha costretto da subito a ragionare su come fare questo media, come fare in modo che fosse appunto un media che fosse in quell'epoca diverso dai media mainstream, quindi orizzontale, accessibile a tutti, eccetera. E tra l'altro devo dire che la cosa, per esempio, una delle cose che mi viene in mente adesso, che è molto strana, è che nonostante il Newswire fosse il posto dove Pino, Marta e Rosalia potevano andare a pubblicare quel cavolo che gli pareva, compreso mio marito oggi mi ha picchiato, oppure ancora meno politico, oggi pomeriggio sono uscita e ho visto la signora Martina andare a fare la spesa, teoricamente potevano benissimo usare questo Newswire in questo modo. Il Newswire invece aveva un alto contenuto politico, cioè era una roba seria, c'erano i troll, per carità, qua e là comparivano i troll, comparivano anche i fasci qua e là, ma molto poco rispetto a quello che noi avevamo paura potesse essere, no? Perché era totalmente aperto, quindi a un certo punto mi ha detto, qui se ci si buttano i fasci siamo fottuti. Non ci si sono buttati i fasci, stranamente, fino a un certo punto, però dai, sì. E neanche troppo trollaggio, qualcosa qua e là, ma era talmente isolato che era poi anche riconoscibile, no? Per cui anche Pina, che lo poteva usare in un certo modo, riconosceva il troll e gli interessava invece di più il contenuto interessante. Allora, questa cosa secondo me fa un'enorme differenza con, come sappiamo, quel cazzo di gruppi di Facebook dove la gente dei quartieri, faccio, adesso mi viene in mente questa cosa perché proprio ieri su un sito della Social Street c'era gente che diceva delle robe agghiaccianti su senza tetto che dormivano sulle panchine. Vi lascio immaginare. Ma a volte fanno delle piazzate perché ci sono troppi mozziconi per terra, oppure perché c'è la plastica, oppure perché c'è il mercato rionale che impedisce di parcheggiare un giorno alla settimana. Cioè, cazzo, abita a Santa Giulia allora se non ti interessa il mercato comunale, ok? Questi sono i social media attualmente, pieni di troll, perché la gente scrive quel cazzo che gli viene in mente in quel momento, non gli interessa assolutamente nulla, non ha nessuna responsabilità di quello che sta facendo, paradossalmente, nonostante ci sia il suo nome. Perché in Facebook la stragrande maggioranza della gente, ovviamente, usa il suo nome e cognome, tra l'altro, ok? Quindi nonostante usi il suo nome e cognome, si permette di scrivere cazzate abominevoli. Mentre nel Newswire, dove tu non dovevi scrivere niente, se non un nick che ti potevi inventare di volta in volta, ogni volta diverso, tra l'altro, c'era maggiore compattezza in un certo senso, ripeto, sempre con alcuni troll, alcuni fasci, però in linea di massima il contenuto è principale, c'era, ok? Allora, questa cosa secondo me la dice lunga, perché evidentemente la stragrande maggioranza della popolazione italiana che ha iniziato a usare, non ha usato i computer, ha iniziato a usare direttamente il telefono nel 2010, 2011, non so, cioè 2012, no? Quando poi è diventato subito smart, per cui sono passati subito a smart. Alcuni non hanno neanche il computer, usano solo il telefono, no? Allora, questa cosa è inevitabile che porti all'uso dello strumento come se fosse una, ma mi viene un paragone un po' sciocco perché anche quella va compresa, è come se tu usassi la macchina senza sapere che c'ha una frizione, un freno, che ti si buca una gomma, la devi cambiare e quelle minimo di cose che normalmente uno che guida dovrebbe sapere, o la lavatrice, no? Che magari se si intasa bisogna cambiare il filtro, però di solito si chiama il tecnico, no? Per la lavatrice. Ecco, allora usano il telefono come fosse una lavatrice o una macchina di cui non sai assolutamente niente, vai dal meccanico. E questa però non è una cosa che succede a una persona, è una cosa che succede a 50 milioni di italiani. Per cui è chiaro che in una situazione del genere la cultura che sta dietro all'uso di un mezzo tecnologico e sta anche dietro a internet, perché adesso c'è sia la cultura del computer e del cellulare, ma c'è anche la cultura di internet. Cioè internet non è nato per farci leggere tante pagine interessanti, è nato per metterci in rete e per elaborare dei contenuti condivisi, che è una logica totalmente diversa. Adesso cosa succede invece? Che uno o legge o mette il suo contenuto, punto, non gliene fotte un cazzo di quello che poi succede. Cioè, al massimo gli interessa vedere quanti like ha ricevuto, ma non è una condivisione il like, è una finta condivisione, è una finta apparizione che ti fa credere di avere condiviso il tuo contenuto, ma non l'hai condiviso in realtà, perché non hai avuto nessun ritorno, che non hai avuto un'evoluzione, non hai proseguito il percorso. E ovviamente, mancando queste cose culturali, è inevitabile che poi ci si arrivi ad usare questi mezzi in maniera banale, e nel momento in cui li usi in maniera banale non evolvono più e non si va più da nessuna parte, si rimane lì a usare queste robe in quel modo ed è finita lì. Infatti, non a caso, se notate, è da 5 anni che il panorama non sta molto cambiando. Cioè, sì, cambiano le proprietà, Instagram è diventata di Facebook, vabbè, è arrivato TikTok, però la faccenda è sempre quella. Non stiamo assistendo a nessuna evoluzione successiva, e questo secondo me è un grosso pericolo, perché se il mezzo e anche il contenuto non evolvono, siccome l'informazione è strettamente collegata con la società, anche la società poi stenta ad evolvere. Per cui i casi sono che o la società a un certo punto si dà una svegliata, non userà più questi media ed evolverà al di fuori di quei media, cosa che io spero molto, cioè spero molto che a un certo punto la prossima generazione di ragazzini arrivi a rifiutare totalmente e a tornare al passaparola, ok? Così finalmente ritorniamo a inserire evoluzione, ok? E l'altra possibilità è che, non lo so, qua la fantasia dovrebbe essere un po' più alta, che ci sia, che ne so, una rivoluzione tecnologica che ci porta su un altro livello. La vedo più difficile perché, come sapete, le rivoluzioni tecnologiche sono sempre in qualche modo dipendenti dal sistema del capitale, e il sistema del capitale in questo momento non ha nessun interesse a evolvere, perché ha una paura fottuta, perché in questo momento il sistema del capitale è in scacco e rischia grossissimo, e tra 10 anni sarà mandato totalmente a fanculo dal cambiamento climatico, per cui potremo vedere forse qualche cosa succedere là, vedremo cosa succederà. Ritorno a Indie Media. Leggere questo libro secondo me è importante perché ci riporta a una logica del tutto diversa dell'uso di un media, a una logica del tutto diversa della gestione di un media, alla logica del tutto diversa dell'uso di uno strumento, e quindi forse ci può dare delle informazioni interessanti per intanto utilizzare meglio i vari telefonini e i vari media che stiamo usando. E poi forse anche per riflettere sulle possibilità di proseguire in altre direzioni, perché è vero che Indie Media si è chiusa, però quell'esperienza resta lì, ha un significato, e secondo me il fatto di avere finalmente essere riusciti a mettere la storia in un libro permette appunto poi un'evoluzione successiva del pensiero che altrimenti si sarebbe perso. Ho finito. Insomma, per chiudere un po' forse la nostra parte, poi ci sono le domande, speriamo. Da un percorso per cui si era arrivati a cercare di fare un percorso politico di autogestione delle piattaforme, come c'è l'autogestione dei propri spazi occupati, dall'intenzione di una costruzione di senso che fosse politica, si è arrivati alla lottizzazione di internet da parte del capitale, all'utilizzo delle app che fondamentalmente non ti non ti fanno pensare più a concetti come accesso a internet, net neutrality, io pago un tot di banda, quello che ci passa in mezzo sono fatti miei e costruisco senso con altri soggetti eventualmente. Si è passati a e poi soprattutto a discapito, cioè per spezzare una lancia in favore dei giovani, noi se volevamo fare qualcosa con internet dovevamo prima studiare, imparare e poi dopo potevi fare qualcosa, perché anche solo pubblicare una pagina non c'erano cazzi, prima dovevi studiare, imparare e poi potevi pubblicare. Oggi non hai più questo problema, questo gradino per accedere a internet. Internet ti è data comodamente in un'app per far sì che avvenga distruzione di senso, per far sì che ci sia intrattenimento per ore e ore e ore e ore, perché fai guadagnare qualcun altro. Quindi la mercificazione, la perdita di autogestione, la distruzione di senso, l'impossibilità in quegli ambiti di far valere veramente la propria voce politica, perché si sta dentro una bolla definita da un algoritmo che non controllate, che non è nostro, che controllano altri, che vi vogliono lì per fare intrattenimento e distruzione di senso. E questo è un problema. Quindi l'invito è che ci sia una generazione di giovani che invece si metta a fare delle app che pensano ad altre modalità di piattaforma, peer-to-peer, in qualche altra soluzione dove ci sia di nuovo controllo, autogestione nostro, spirito critico e volontà di... Quando tu mi dici, voi qua fate politica, no? Una parte importante del fare politica è il voler comunicare la propria azione politica, perché altrimenti se non ha risonanza rimane una cosa solo per te. Noi avevamo l'intenzione di dare il massimo megafono possibile alle nostre iniziative politiche, e questo percorso ci ha portato a dire dobbiamo scornarci con l'imparare ad usare il computer e a fare delle cose su internet in un certo modo, perché lì non abbiamo più il problema del tappo di Mediaset o del tappo della Rai. Torniamo agli anni 90 e i primi 2000, i tappi erano le televisioni, la gente si informava lì, non su internet. Noi li abbiamo spostati anche un po' su internet con la costruzione di senso. Mi fermo qua, spero che ci siano delle domande. Noi abbiamo detto il nostro, credo. Io ho da aggiungere una cosa, perché ho paura che poi non ci torniamo più rispetto a Supporto Legale. Supporto Legale era interno a Indie Media, nasce come gruppo interno, a un certo punto si stacca perché aveva bisogno della sua autonomia per lavorare, per poter continuare a lavorare sui processi. Quello che c'è da dire è che non hanno fatto soltanto il gruppo che si è occupato e che continua a occuparsi tuttora di Supporto Legale, non ha fatto soltanto lavoro da consulente tecnico, ma ha svolto anche un ruolo politico molto fondamentale. E perché la presa di posizione che ha avuto all'inizio Indie Media, quando ha cominciato a lavorare sui processi del G8, e che poi è stato il punto di vista che ha riportato indietro Supporto, è che andavano difesi tutti, bisognava difendere tutti in qualsiasi posto, in qualsiasi luogo si trovassero, tanto che il lavoro politico che ha fatto Supporto in questi anni è stato proprio quello di portare anche gli avvocati a fare una difesa comune rispetto ai 25. Sarebbe stato molto più facile per una parte o per un'altra area cercare di prendere fuori i suoi e cercare di sistemarli, ma questa cosa di difendere tutti è un imprinting che viene da come era fatta Indie Media. Indie Media è per tutti, è di tutti, e nello stesso modo poi Supporto è diventata una struttura, un collettivo che ha proseguito e ha portato avanti questo tipo di impostazione fino ancora oggi, perché Supporto è ancora attivo. Mi ricordava giustamente di B, e ovviamente i soldi, cioè tutto quello che riusciremo a far entrare dalla media del libro vanno a Supporto Legale, perché appunto Genova non è finita, ci sono ancora delle cose che stanno andando avanti. Se c'è qualcuno che ci ha lavorato e ha continuato a lavorarci in tutti questi anni è Supporto, e quindi ci sembrava giusto dare un po' di supporto. Supporto a Supporto, ragazzi. Siamo belli, insomma, carini. Allora, io avevo una domanda, ma prego, ma c'erano più domande. Ah, ok. No, allora la domanda che facevo a chi è qui con noi a presentare, poi vediamo se qualcuno per caso vuole intervenire, riguardava questo punto che appunto abbiamo scoperto l'altro giorno, cioè io personalmente ho scoperto, poi qualcun altro sapeva già, riguarda un concetto, cioè il mezzo tecnico che si utilizza non è neutro. E sebbene io magari appunto non sia così avvezza ad interrogarmi sull'utilizzo delle informazioni, sui mezzi di informazione, per capire questo concetto, perché per me invece l'intenzione conta molto in quello che viene fatto, e si pensi in questo caso all'utilizzo che si può avere delle armi o qualsiasi altro attrezzo può essere fatto per costruire una prigione, una cazzuola, può essere fatto per costruire un centro sociale o una casa popolare, può essere gestito dal capitale per guadagnare dei soldi, può essere gestito da una comunità delle Ande per costruire il luogo dove poter vivere. Il fatto invece che si possa dire, si possa riflettere sul peso obiettivo che hanno i mezzi di comunicazione quando si utilizzano, per cui un social può essere un social inteso come Facebook, tutti gli altri, può essere un problema a prescindere per come è strutturato, perché essendo fornito da qualcun altro per guadagnarci sopra, perché se non è paghi, se non stai pagando, se tu il prodotto, eccetera eccetera eccetera, la specificazione, no? Quindi la domanda era a questo punto, per andare poi anche sul vostro vissuto, qual era la riflessione che veniva fatta inizio 2000 per esempio su alcuni strumenti di cui vi trattavate, come le mailing list, cioè perché quello strumento era intrinsecamente positivo secondo voi per fare politica come la volevate, o meno? C'è qualcuno che ride, lo diciamo perché nei microfoni non entra. Esatto, a questo punto allora, se magari qualcuno ha voglia di parlarci un attimino di qual è la riflessione che si può avere, una delle possibili riflessioni che si può avere riguardo a questa cosa, cioè i mezzi di comunicazione sono intrinsecamente politicamente connotati, come e quando e cosa significa questa cosa? Prego. Allora, certamente gli strumenti sono politicamente orientati e puoi determinarne anche le possibilità per gli altri e costringerli dentro un percorso per cui non possono esprimersi pienamente e liberamente. Sul fatto che le mailing list siano uno strumento positivo ci andrei cauto. Noi ci siamo fatti cavie di noi stessi, delle nostre idee, e ci siamo messi nei canali IRC, ci siamo messi nelle mailing list, ci siamo messi a fare i siti eccetera. Però noi, sì, le chat, adesso c'è Telegram, prima c'era IRC, però è simile se vogliamo. Comunque, noi ci siamo calati in questi strumenti, no? per permettere la comunicazione a distanza su territorio che fosse italiano, quantomeno se non internazionale, quando erano gli appuntamenti internazionali. Ma ne abbiamo anche pagato lo scotto di quando impari a usare questi strumenti all'inizio, non sai tutto quello che ti può capitare nelle conversazioni fatte mediate da uno schermo. Le conversazioni fatte mediate da uno schermo, se io sono di fronte a te e tu dici una gran cagata, io posso cercare di spiegarti perché è una gran cagata, ma se ti dico solamente una gran cagata, sicuramente l'ho fatto via mailing list. E a te ti è arrivato un pugno in faccia e mi rispondi con una sberla, che sono appunto i flame che accadono nelle mailing list. Quindi abbiamo sperimentato, abbiamo anche logorato una comunità usando questi strumenti e non capendoli fino in fondo, nel senso non sapendoci limitare a volte nel come usare correttamente quegli strumenti, e abbiamo anche un po' degenerato, no? in flame, negli scazzi, nei parlamentini invece che una lista, no? Quindi ci sono le fazioni che poi coordinatamente cercano di imporre una visione su un'altra, e dinamiche che diventano più complesse da gestire perché poi ci sono relazioni personali, ci sono tutta una serie di cose. Quindi non eravamo dei geni, però all'epoca c'erano quegli strumenti e quelle possibilità, ci siamo buttati, abbiamo fatto delle cose positive e abbiamo anche preso le nostre belle mazzate, perché insomma gli scazzi, le ore di rotture di coglioni, gli scleri, le robe ce le siamo fatti tutti, ed è anche il motivo per cui magari poi a un certo punto ci siamo sfilacciati, perché poi c'era anche un contesto politico che andava mutando da l'onda in crescendo fino a Genova e poi dopo alla fase un po' più che è ancora sostenuta per un altro paio d'anni di attività politica di tutte le realtà in Italia, no, di movimento eccetera. Si è entrati poi in una fase di riflusso a partire dal 2006-2007-2008 e noi di riflesso diventavamo meno rilevanti o importanti, perché non c'era più quella rete che noi avevamo cercato di creare come linfa che permettesse la costruzione di senso, dare visibilità eccetera, e ci siamo afflosciati sulle nostre incapacità di comprendere fino in fondo noi stessi, no? I vizi e le storture di questi strumenti. Per cui l'invito è, qualunque strumento anche vi date, è importante intanto l'autodeterminazione di poterlo controllare e gestire, perché almeno sapete di quale pillola vi state andando a prendere, no? E ve lo siete costruite da soli, però poi siete cavie siete vittime del vostro paradigma, no? Di come avete tradotto la vostra intenzione nello strumento. E quindi poi si apre il dibattito di come cambiarlo, di come fermare i comportamenti sbagliati e detrimentali dell'andare avanti. Mi fermo qua perché lui voleva fare una domanda da un'ora e probabilmente la vuole ancora fare, no? Non la volevi fare? Prego, prego! Il microfono. Vai! Però facciamo l'esempio. L'assemblea è uno strumento. Esatto. All'interno di un'assemblea tu puoi decidere di adottare delle tecniche che la collettività stessa si dà, quindi non è che è decisa da una sola persona, per determinare quale sarà il non tanto il tenore, ma come sarà utilizzato quello strumento. Faccio l'esempio, la prima volta che ho visto utilizzare certe tecniche erano alle assemblee di Indie Media, quelle, il consenso, cosa che adesso utilizzano una di meno, ad esempio, gli interventi non dovevano durare più di un tot, in modo tale che tutti e tutte potessero avere l'opportunità di parlare. E ripeto, cose che vengono, che io poi ho rivisto solo ultimamente con una di meno. E ad esempio, hai già parlato, aspetti, se c'è qualcuno o qualcuna che ha bisogno di intervenire, aspetti. Quindi non è cioè non è necessario. Lo strumento è uno strumento, è chi lo utilizza e come viene utilizzato che determina qual è poi effettivamente, insomma, che cosa sarà questo strumento. Nessun'altra vuole intervenire su questo? Scusa Manu, no, speravo di riuscire a incastrare qualcuno a intervenire, ma niente. No, dopo il caso io, allora, inizio il cacciando subito a noi, che vengo di dopo di spiegare cos'era Radio Gap, che è stato un punto per Milano quando riuscivo a cagarmi a noi, dopo se anch'io, però No, ma tranquilla. Allora, a Galerie chiedo dopo di spiegare cos'è Radio Gap, che è stata un'esperienza fondamentale. Radio Gap nasceva dal Burk e da tutto quel circuito. Di chi è Radio Gap? Infatti, allora. No, ma infatti lo fa anche per provocare, almeno hanno risposto, perché se no, se non facevo questa piccola provocazione nessuno rispondeva, almeno un po'. Oh, vabbè, lasciatemi divertire un attimino. Allora, prometto che ringrazio i compagni e i compagni di Unimedia, e anche gli ECN, se sono andati via a fare niente, che comunque su Genova, e non solo su Genova, andato un contributo fondamentale in quegli anni. Prima parlando, avete saltato un passaggio che per me è fondamentale, perché non spacca il Genova, per me spacca da Napoli, che nessuno purtroppo ha ricordato prima. Perché dico Napoli? Perché Napoli era stato a marzo del 2001 ed era stato un punto di partenza che molti di noi non abbiamo capito. Era la preparazione di Genova. A Napoli ci fu un'altra mattanza. Ci chiuso in una piazza ed era la prima volta in Italia dove Polizia, Carabinieri, Guardia di Finanza, tutti insieme caricavano e chiudevano completamente una piazza. In giro lasciavano sempre aperta una via. Per uscire da quella piazza abbiamo dovuto, senza mezzi termini, fasci largo, ammazzate. Quindi dovevamo capire quello che Napoli insegnava, l'abbiamo capito purtroppo dopo Genova. Al momento eravamo troppo impegnati su Genova e non abbiamo capito ciò che Napoli insegnava per poi arrivare a Genova. Io permetto che parto da un'era geologica molto differente. Quando io ho iniziato a fare politica c'erano ancora le fotografie e con le fotografie, volente o nolente, avevi un controllo diverso. Sapevi chi poteva fare fotografie e chi non le poteva fare. Adesso non mi dilungo troppo su tutta una serie di vicissitudini, però avevi un controllo diretto delle cose. Con Napoli e Genova 2001 chiunque aveva una telecamera poteva fare un video, giusto o sbagliato. Infatti poi lasciamo perdere il famoso sequestro del materiale che ha causato anche un po' i problemi a compagni e compagni. Voglio essere bene, l'ultimo ringraziamento in modo proprio di cuore per me è a Supporto Legale, perché Supporto Legale, nonostante siano passati 20 anni, ancora oggi c'è. Perché? Perché comunque sia, di quei 20 anni, non voglio entrare in analisi politica, la sconfitta del movimento, cioè la repressione che c'è stata e tutto quanto, però Supporto Legale ha continuato a battersi per compagni e compagni che erano finiti in galera rispetto al G8, erano 25, onestamente non mi ricordo quante migliaia di euro il movimento ha dovuto tirare fuori. Dico il movimento perché ovviamente erano compagni e compagni che non potevano più lavorare, quindi bene o male in diverse iniziative in questi anni abbiamo cercato sempre di tirare sui soldi per Supporto Legale, per pagare le spese di quello che ci ha costato noi Genova, perché non ce lo dimentichiamo. Genova, oltre a Carlo Giuliani ammazzato, per noi comunque vuol dire 25 compagni e compagne che ci hanno sequestrato. Oramai dovremmo essere quasi agli sgoccioli degli ultimi arresti o domiciliari o pena alternativa, eccetera eccetera, però sono passati 20 anni e 20 anni li hanno pagati loro, ma li abbiamo pagati anche noi. Con questo concludo. E la provocazione di prima vale ancora. Alcune domande. Una, diciamo, che viene fuori dall'intervista che ho letto oggi ad Adanai, nel quale sostanzialmente fa venire fuori quello che è il, citando il LOA, che è la club al Bulk, diciamo il rapporto che c'era tra, chiamiamolo così, gli hacker e il LOA, quindi tutte quelle divinità afroamericane che erano un po', divinità che in qualche maniera creano una sorta di connessione tra il mondo, diciamo, divino e quello reale. Volevo capire come questa cosa qua aveva influenzato il vostro rapporto attraverso il cyberpunk, quindi una cosa che in qualche maniera l'aveva fatto venire fuori, e se anche per voi era così, perché insomma mi sembrava una cosa abbastanza, anzi decisamente interessante. L'altra cosa invece era rispetto a come siete riusciti a sostanzialmente rimettere in piedi Indie Media, perché questa è una cosa che l'avete fatto, ok, non è vero. Va bene. Abbiamo le magliette, e... non c'è nessuno, non è vero. E l'ultima, qual è insomma un po' il significato di aver ricreato uno strumento che in questo momento è quello che c'è su Telegram, che è questa sorta di macchina del tempo, time machine, che in qualche maniera sta facendo ripercorrere giorno per giorno, minuto per minuto, tutti quelli che sono stati gli eventi che hanno portato poi al G8. Ok, parto dall'ultima, perché io all'inizio ho detto io non volevo scrivere nel libro, non volevo essere messo nel libro, però siccome avevo loro due più un'altra compagna che mi venivano sotto e mi dicevano Signal, WhatsApp, Telegram, mi devo fare il libro, buona lì, cioè sto facendo una canna, cos'è? Mi hanno tirato in mezzo così su questa questione. Io non volevo fare il libro, però non è che non volevo contribuire, volevo contribuire, e ho rilanciato, ovvero le ho prese, gli ho detto volete Indie Media, rompete i coglioni con Indie Media, adesso fermo un attimo, vi metto in un canale Telegram, lo chiamo Newswire, no? E vi ci metto voi e un altro tot di gente, no, che eravamo. E nel giro di 40 minuti erano 90 le persone in quel canale, perché non le ho messe tutte io. Anzi, io ero lì che aspettavo che ne aggiungessero, dicevo, che recupero il numero di telefono di che non lo vedo da 10 anni, no? Inizia così. Però poi ovviamente ci troviamo in questo canale Telegram e gli ho detto, è colpa mia, non c'è da fare un cazzo e lasciate perdere, no? È successo a caso, vi ho cooptati a forza. Non era ovviamente così, è successo che ci siamo messi a parlare di dire... Supporto Legale aveva già richiesto ad Autistici prima di questo episodio specifico, ci servono i materiali di Indie Media online, perché comunque ci farebbe comodo adesso avere di nuovo in piedi un archivio. No, hanno rimesso in piedi il sito di Supporto Legale, stavano rimettendo in piedi un po' di cose, e processi G8, tutta una serie di cose, e anche Indie Media era ovviamente una risorsa che avrebbero avuto piacere di poter fruire di nuovo e di avercela a disposizione. Per cui finite, cioè questo era il mandato ufficiale, che però voglio dire, nel corso degli ultimi 10 anni ci abbiamo provato 2 o 3 volte almeno, prendiamo gli hard disk, proviamo a tirarli su, non c'era mai la spinta, ok? Perché eravamo noi eravamo il nostro stesso riflusso, non eravamo neanche capaci di ritirarci fuori la nostra roba e rimetterla online, ok? Ci provavamo un pomeriggio, tre canne, non è andata, fanculo, dimenticato di nuovo, e passano tre anni prima che ci riprovi. In questa nuova occasione, il ventennale, facciamo il libro, c'è il lockdown, sei a casa, non sai che fare, parliamo insieme e cominciamo a dire, vai, questa cosa adesso però la dobbiamo fare. Per con Genova, una comunità che non si ritrova da 15 anni. Con una comunità che non si ritrova, sì, esatto, non ci vedevamo, molti di noi non si vedevano tra di loro da 15 anni, però con le modalità da canale IRC, però su un canale Telegram, quindi nel caos totale del degenero, delle puttanate dette, delle cose serie in mezzo, è un delirio. Abbiamo cominciato a pensare che, ok, time machine, cioè macchina del tempo, e da lì abbiamo iniziato a sviluppare un piccolo progetto, che era, ok, vogliamo rimettere in piedi Indie Media, c'è stato qualcuno di noi che ha rimesso in piedi Indie Media, però abbiamo detto, Indie Media così com'è, è difficile andare a scavare fuori il G8 da Indie Media, perché Indie Media c'ha 6 anni di storia, il G8 è il primo post e l'ultimo è Bad Trip, vai indietro a cercare Indie Media, non è così, no, che la gente si stanca prima. Oggi, cioè, gli devi dare un meme, non gli puoi dire vai lì, search in alto, scrivi Genova G8, poi vengono dei risultati, cerca, al quinto magari leggi una cosa che ti interessa. Ma chi cazzo ci segue oggi nel 2021 se questa è la proposta? E allora abbiamo pensato, bisogna fare un'operazione un pochino diversa, cerchiamo di capire che la gente oggi se ci legge ci leggerà da un telefonino, e se ci legge da un telefonino dobbiamo finire in qualche app, perché sennò non ci vedono, e abbiamo fatto dei compromessi e abbiamo accettato di avere un account su Twitter dove veniva ripostato il newswire, perché l'idea è stata Time Machine, bene, allora, mese di luglio, dall'1 al 31, cosa è successo nel sito di Indie Media dall'1 al 31 nel newswire, che è uscito questo post a quest'ora, questo giorno, bene, facciamo un bot, scriviamo del codice e facciamo in modo che peschiamo dal DB quel giorno e quell'ora più 20 anni e pubblichiamo su Telegram e su Twitter quel post, perché così abbiamo detto la gente che vuole sapere di Genova attraverso le nostre parole o di quei soggetti che hanno usato Indie Media può accedervi da Telegram o da Twitter in maniera, no, mobile, il pollice fa tutto, no, noi eravamo 10 dita all'epoca. E a fare questa operazione abbiamo creato appunto la Time Machine, anche per noi poi si è rivelata una cosa molto interessante, perché inizi e ti accorgi che i primi 10 giorni del newswire di Indie Media, prima del G8, no? Quindi 10 giorni prima del G8, i post erano 5, 6, 7 in un giorno. Non c'era sta cazzo di bulimia che per forza ti devo mettere like o ti devo rispondere una cazzata, cioè che arrivava il comunicato de la carovana sta partendo, noi vogliamo attraversare la frontiera, come facciamo? Cioè era tutta roba politica che aveva anche un senso, perché erano in pochi a conoscerci e chi ci conosceva aveva un intento politico e sceglieva quel mezzo per un motivo politico. E poi è andato in crescendo, adesso se vi doveste mettere adesso, i post sono qualche centinaio in un giorno, perché ovviamente sta montando, aspettate Genova i 3 giorni, lunedì, martedì, mercoledì, e c'è il picco di informazione che è stata prodotta sul Newswire. E quindi abbiamo pensato, se facciamo questo giochino di rendere fruibile, abbiamo fatto poi itm.vado.li, è un modo di ricordarsi un URL facilmente per arrivare a un piccolo sitarello, chiamiamolo anche sitarello, 3 pagine che sono pronte per mobile, comunque vanno su un telefono, dove trovi una breve spiegazione di cos'è Indie Media, trovi le feature e tutto il percorso che è stato pubblicato su Indie Media e su Indie Media del G8, e quindi però non trovi solo i 3 giorni, trovi le feature del 2003, del 2005, dove i processi sono andati avanti, Indie Media ha seguito i processi, quindi non vedete solo Carlo Giuliani, la Diaz e questo e quello, vedete anche poi tutto il percorso processuale, perché non ve lo dirà nessun altro media di sta roba di supporto legale, non ve ne parlano, gli articoli dicono sempre il black bloc, hanno rotto tutto, non li ha presi nessuno, mai un cazzo di parola su chi è andato in galera, la solidarietà che era necessaria e le riflessioni che sono nostre come movimento. Questa roba la potete trovare magari lì a sprazzi, perché ovviamente non è che mentre facevamo le feature avevamo l'idea tra 20 anni, poi c'è un libro che ne esce da questa roba, cioè, abbiamo scritto man mano, però avete delle informazioni dirette di oggi c'è stata l'udienza e queste sono le risposte, e supporto legale ovviamente ne ha un quintale. Trovate ancora di nuovo online Pillola Rossa, che era in un altro sito esterno a Indie Media, ma che aveva un lavoro di inchiesta, che col cazzo che le inchieste che hanno fatto di Pillola Rossa le leggerete mai su nessun altro media, andatevela a leggere là, c'è tanta roba interessante che spiega chi stava in piazza, quali figure erano le figure di comando in piazza della polizia eccetera, roba che fa piacere, capito, che qualcuno abbia avuto il coraggio di mettersi a investigare e poi di produrre dei dossier. Ed è nata dentro il Newswire, ed è partita dal Newswire, quindi vedete di nuovo il fare rete, costruire senso, cercare di creare dei percorsi che siano politici e poi far nascere un dossier. per dei processi che nessuno sta coprendo mediaticamente, perché tanto quelli sono i 25 che ci possiamo scordare, perché Genova dobbiamo dire che è sospensione della democrazia, ma non parliamo degli arrestati perché è la nostra gente. Noi invece ne abbiamo parlato per anni. E mi fermo di nuovo perché sennò veramente vi faccio due coglioni, ragazzi. Scusate, la logorrea. C'è anche una domanda, un'altra domanda. Aspetta. Esatto, c'era l'altra domanda che va fatta. Quella sull'OA. Le divinità. Allora, ma la cosa dell'OA e delle divinità. Allora, il LOA veniva fuori da un libro di Gibson e l'avevamo preso come citazione letteraria dal Cyberpunk, però proprio che non ci abbiamo speso molto in termini di elaborazione. Però abbiamo giocato all'inizio un po' col concetto, no? Di dire queste forze che agiscono e possono fare trasformazioni, eccetera. Era un po' la una cosa che ci siamo detti, che un po' c'è stata, ma non è che è stato poi il fulcro centrale di questo. Poi lo filosofo Alain ovviamente ci costruisce libri anche su questi aspetti, perché capisce le sfumature e le indaga. Io sono un po' più hands on e mi fermo qua su questo. Prego, vai. Io volevo fare una domanda. Prego. Allora non la facciamo fare. Niente, tu. Presentati però, mi raccomando. Sì, sono amico di Gulli. No, esatto. No, rispetto a quello che si diceva prima della mancanza di evoluzione, quello che si diceva prima rispetto alla mancanza di evoluzione negli ultimi anni, non vedete gli ultimi 10 anni di evoluzione rispetto alla decentralizzazione, alla nascita delle criptomonete, i PFS e tutto questo genere di cose decentralizzate come un'evoluzione? Vi faccio questa domanda perché sono... No, ecco, sono poco tecnico e vorrei capire se è un'involuzione, quindi è una roba che voi avete già visto e che per voi... Mi rivolgo a te perché la mancanza di evoluzione l'hai, diciamo, citata te. È un nuovo merdone, una cagata pazzesca, o è qualcosa che può essere utile? Cioè può essere... L'avete già visto perché internet è nato decentralizzato, o è una cosa effettivamente interessante? Allora, in realtà io mi riferivo all'informazione, per cui io parlavo proprio dell'informazione quando parlavo di evoluzione, dei modi per informarsi. Bitcoin non è informazione, cioè sì, è informazione, ma in un altro senso, è speculazione finanziaria. Ok, ma andiamo oltre Bitcoin, diciamo la rete su cui si basa Bitcoin, il concetto di decentralizzazione. Le blockchain, vuoi dire? I PFS, sì. L'idea che ci sia un file system decentralizzato. Ovviamente non è fico. Potrebbero essere. Possiamo concedere a lui un'occasione, certo, di parlare anche lui, così le facciamo diventare più assenziale. Di questa su queste cose io ci lavoro da 3 anni, non ci ho ancora capito nulla. Vanno studiate, perché la decentralizzazione è tanto carina, perché ti libera da Facebook, Instagram, Zuckerberg, Google, Web3, però devi avere un wallet. Qualsiasi cosa tu faccia, devi pagare il costo di un transfer su una blockchain. Se vuoi ne parli. Quante persone hanno sentito arabo da quello che ho detto? E quindi ne parliamo dopo insieme e prepariamo qualcosa per i problemi successivi. Non lo so. E io sto cercando di coinvolgere persone per capire se questo è un nuovo merdone oppure no. Arriverà l'euro digitale, bellissimo, c'è Polkadot, Substrate, Web3, certo. Foundation, sono cose bellissime che si propongono come il nuovo internet che libera tutti. Ok, io non ci credo. Più che altro la mia domanda è: la blockchain sarà anche una realtà libera al di fuori? Ma il problema, esatto, il problema è quali capitali la stanno muovendo? È una realtà nata dal basso come Indie Media, cioè un gruppo di persone che ha detto facciamo una roba e quel gruppo è poi diventato molte più persone senza che fossero legate strettamente tra loro? No, sono tutte situazioni libere, apparentemente libere, ma mosse da capitali, perché ci sono dei grossi interessi di capitali. Quindi nel momento in cui c'è un grosso interesse di capitale, mi dispiace, ma già non la vedo bene. Ok. Vai. Ok, ma rispetto anche allo strumento, quindi al discorso che si toccava prima, uno strumento giusto o sbagliato, anche dietro Ubuntu c'è Canonical, ok, però Ubuntu è l'interfaccia Linux che quasi il 99% delle persone che non usano Windows utilizzano, ok? E quindi è male. Cioè, certo che è male, tutti lo sanno che Ubuntu è il male. Quindi ho sbagliato tutta la mia vita è una bugia. Esatto. Ma c'è un applauso per il nostro amico. Perché è di Varese, quella è la questione. No, ma la domanda verso di voi, che avete fatto nascere, avete creato questa cosa fichissima che è Indie Media, e come... Vabbè, comunque che... Vabbè, ok. Quindi questa cosa della blockchain, del concetto di decentralizzazione, la vedete un po' come qualcosa che non può funzionare, non è utile? Ma non è che... Allora, la questione è che non c'è... la decentralizzazione, così come il free software, di per sé, non sono la soluzione. Non c'è una tecnologia salvifica che per un qualche motivo a un certo punto magicamente risolve un problema politico. Prima c'è la politica e dopo c'è la tecnologia. Se invece ti aspetti che, come dire, la tecnologia risolva un problema politico, abbiamo un problema, effettivamente. No, non mi aspetto quello, ma la mia domanda era: è una tecnologia che vale la pena di approfondire per essere utilizzata in contesti che poi siano anche politicamente rilevanti? Ma certo, la decentralizzazione è straordinaria, non soltanto dal punto di vista tecnico, ma anche quando è trasposta, per esempio, all'interno di un sistema organizzativo. Per esempio, la rete dei servizi sanitari è una rete decentralizzata. Noi utilizziamo reti decentralizzate in continuazione e sono ottime. Ok. Però non basta. Certo, ok, non basta. Però ci sono delle magie che possiamo fare insieme, sicuramente. E per rispondere alla domanda del nostro amico su gli spiriti dei Loa, direi che non nessuna buona storia può iniziare se non c'è della musica. E quindi i Loa, gli spiriti voodoo che hanno animato parte dell'immaginario cyberpunk da cui arriviamo anche noi, erano strettamente legati alla musica, in particolare nel romanzo Mona Lisa Cyberpunk, Neuromante e Giù nel cyberspazio. E questa musica ovviamente era la musica dub. Prima la musica reggae e poi la musica dub. E questo, come dire, ci porta anche un po' a salutare delle amiche che sono con noi questa sera, che sono delle amiche di un posto che non c'è più, che si chiamava Pergola, che è stato un posto fondamentale nella nostra esistenza politica e che si occupava di musica anche. E la musica è stato un pezzo che ha traghettato la nostra storia verso degli orizzonti che non ci aspettavamo e che sono stati nostri in tanti modi diversi e che c'entrano anche meno con le competenze tecnologiche, ma c'entrano con la creatività politica. E quindi penso che il meticciato, insomma, un po' tra tecnica, musica, cultura politica, modi di vestirsi, di truccarsi, di immaginare il proprio modo di stare nello spazio pubblico, concorrono tutti insieme a creare la ricchezza che serve poi per costruire un movimento politico. E che non dobbiamo dimenticarci, non dobbiamo pensare che le competenze tecniche siano le migliori, le uniche, la cosa più importante, ma che le competenze tecniche sono una parte di quello che è poi tutto il vissuto e tutta, come dire, gli elementi creativi che utilizziamo quando siamo nelle nostre situazioni collettive. Parlare adesso di musica e eccetera, e accennato a Pergola, allora mi permetto di riprendere, c'è stato un momento in cui abbiamo parlato di Desce, dei collegamenti dalla Palestina eccetera, se non c'era Pergola con uno studio audio già pronto dove la gente andava a preparare i DJ set, dove a noi smanettoni veniva concesso di entrare e vedere quel pezzo, è stato possibile che qualcuno telefonasse da là, noi ricevessimo uno studio con una qualità audio di un certo tipo, potessimo rimandare a Radio Onda Rossa in streaming le telefonate e fare la nostra piccola parte. E di nuovo, partendo da un livello più teorico, io vi faccio l'esempio più, invece più pratico, la commistione di quello che lei descriveva ci ha permesso di avere dei collegamenti audio con la Palestina. Era un tema importante anche per Pergola, ovviamente erano cose che si volevano fare, e insieme abbiamo imparato ad usare lo studio audio che c'era lì ed era importante e prezioso, e fare i nostri streaming dalla Palestina. Quindi nelle interazioni abbiamo costruito anche delle soluzioni che ci sembrivano importanti politicamente. Questa connessione con la musica si ritrova anche su Roma, anche se non è proprio Milano, è completamente un'altra cosa, non è reggae, dub, era techno fondamentalmente. Quindi prima da un lato c'era tutta quanta sia la parte legata ai rave, che qua no, c'è tutta l'altra, c'avevamo anche quello che c'è un altro, no? Che c'era la Berbeda, così, però anche Havana, che è stata comunque, era già, non era un Loa, non era un La Club, non era un A Club, ma è nato come BBS, o comunque faceva le stesse cose che facevano gli A Club fondamentalmente, che non era soltanto portare infrastrutture ma anche fare corsi di formazione e cercare, no, di diffondere. Aveva due anime, un'anima era strettamente legata a quella che era la musica techno, tanto che poi le prime sperimentazioni anche a livello video fatte dalla stessa Candida, che trovate tutto nel libro ovviamente queste cose, sono state fatte ai rave quando i rave erano molto piccoli, era un'altra cosa, stiamo parlando di fine anni 90, e i primi esperimenti venivano fatti proprio là. Banalmente non c'è nessuna rivoluzione se non si balla, queste cose le dicevamo sempre, quindi, però anche quello è effettivamente un filone che si è unito. E probabilmente noi che abbiamo lavorato di più sul cyberpunk, che abbiamo avuto quel tipo di connessioni così, abbiamo capito anche molto più in fretta in di media e quello che poteva essere lo strumento rispetto a quelli che erano, diciamo, i militanti classici, che hanno assentato un po' di più sia a capire come si utilizzava la rete, come potevano essere utilizzate le mailing list e quali potevano essere le chat e potevano essere le varie declinazioni. Però effettivamente, cioè, hai ragione, la musica è stato comunque un elemento fondante ovunque, più o meno. E vabbè, questo voglio dire. Mario. Rispetto agli strumenti e rispetto a quella che è stata in realtà la mia esperienza, io facevo parte del Bulk e arrivò l'Hack Meeting. Io non sapevo niente di computer, esatto, era il 99, e non sapevo niente di computer, e intorno a quello che è stato l'Hack Meeting girò tutto un gruppone di persone, diciamo, incantate dalla rete, che era anche parte di un libro. Quello che forse, non so come dire, per me la cosa che è stata essenziale nella mia personale formazione, ma poi di quello che ho visto che succedeva intorno, era che non è che esisteva uno strumento e cercavi di piegarti allo strumento, tu dovevi fare delle cose, ti servivano degli strumenti, cercavi di capire quali fossero gli strumenti adatti. Poi, per esempio, siccome intorno, come diceva prima Bomboclat, si muovevano tante persone che, esattamente come diceva lui prima, studiavano delle cose perché erano ancora sconosciute, quindi si indagava, si andava a studiare e tutto quanto, a quel punto avvenivano poi le sinergie, no? Le persone che avevano delle esigenze, che incontravano persone che avevano delle conoscenze, dei momenti anche collettivi di non so, navigazione al bar, c'erano i computer con i bar, scusatemi, i bar col computer, le persone iniziavano a usarlo per guardare la posta e c'era Bombo dall'altra parte che gli faceva partire un messaggino e questa persona iniziava a capire che poteva essere spiato spiata nel momento in cui navigava, e quindi entrava anche la dimensione della sicurezza, non la sicurezza legalitaria, ma la tua sicurezza in rete, che cosa voleva dire. Cioè, era un periodo in cui ci si facevano anche tutta questa serie di domande e contemporaneamente avvenivano delle cose negli spazi sociali al di là della rete, e di conseguenza da questo tipo di movimenti intestini nascevano poi: abbiamo bisogno di uno strumento, quali sono i problemi che questo strumento ha? Nasce il server dentro uno spazio, perché così comunque ce l'hai nello spazio, però la rete stai usando, insomma, erano tutta una serie di... cioè non ti piegavi tu allo strumento, era un cercare di trovare quale fosse lo strumento e trovare, dotarti degli strumenti per costruirtelo. Basta, non so se sono... Io ho un sacco di domande in verità, però cercherò di racchiuderla, perché secondo me, cioè, sono quei capolavori di libertà che sono stati in di me, di autistici, che lo sono ancora adesso, che ci permettono di avere un'email sicura, eccetera eccetera, sono delle esperienze che nella mia generazione, che sicuramente avrò 10 anni meno di voi, non ritrovo. E non ritrovo nemmeno nel... proprio a livello politico, negli spazi, quando li vivo, vedo o credo di vedere, sentendo i racconti del passato, una perdita di creatività, che mi sembra qualcosa di estremamente legato a questa cosa qui. Cioè, voi parlavate di musica, collegandola a questa cosa qui, ma anche di curiosità nel ricercare una cosa. Quindi io mi chiedo se... io che non sono nato con l'internet, ma che lo utilizzo da quando sono molto piccolo, quindi da quando ho 12-13 anni circa, non sono capace di utilizzarlo. Quali sono gli strumenti di libertà che ci sono ancora concessi tramite l'internet, e qual è lo spazio politico che noi possiamo autodeterminare su internet in una maniera abbastanza collettiva, cioè senza prendere come esempio la persona smanettona che decide di autodeterminarsi tramite l'internet? Cioè, qual è il metodo di rendere internet uno strumento collettivo di autodeterminazione e non di sottomissione? No, non penso di avere la risposta, posso provare a darne una, e spero che ce ne siano anche altre che arrivano da altri qua, perché voglio dire, è normale, se vogliamo farla un po' più discorsiva insieme. A me viene da dire, per un'entità politica come questa si parte dalle pratiche interne e da quelle che sono le modalità interne di gestione, di fare le cose, e da lì nascono le volontà di seguire un percorso politico di un certo tipo su un tema o su un altro. Per quel tema ti interessa implementare un certo tipo di comunicazione, e allora poi dopo internet quello che ti può dare è un sacco di manuali per studiare cose e capire come fare delle cose, ma non solo i manuali scritti, perché adesso vai su YouTube e trovi spiegazioni in tutorial di ogni genere, no? Ci sono, puoi accedere comunque alle informazioni per capire come usare, come crearti tu degli strumenti, e non per forza dire se non sono in Facebook non mi vede nessuno. Se sei in Facebook non ti vede nessuno lo stesso, ma ti hai fatto far soldi a uno stronzo, non ci hai guadagnato granché. E allora dare valore poi eventualmente alla piccola cosa che riesci a mettere in piedi, ma dargli tu quel valore forzerà anche altri a dover riconoscere quel valore nel momento in cui vogliono mettersi in relazione con te, perché tu hai scelto di stare lì e di situarti lì e di non stare in un altro posto. È da lì che poi si crea il valore, perché cioè, ci sei tu, poi si aggiunge un altro, poi si aggiunge un altro ancora, e insieme scopri che magari tra i soggetti che si sono incontrati ci sono altre competenze da cui puoi estrarre le possibilità che ti vengono in mente di voler implementare. E non credo di averti risposto a pieno, però io partirei da lì, se dovessi partire da qualche parte personalmente, senza pensare che se non sei un super hacker non potrai mai fare un cazzo, perché è sbagliato, perché io non ero un super hacker, ho imparato facendo, ho iniziato a scienze politiche, sono andato nei centri sociali a diventare l'esperto, no? Di sto cazzo mi verrebbe da dire, perché non mi piace pensarmi di un esperto, ma pensa invece che siamo tutti esperti di qualcosa e ci possiamo mettere in relazione e costruire qualcosa di più grande insieme, perché abbiamo un obiettivo politico da conquistare. E allora lì comincia a crearti le condizioni quantomeno di atteggiamento e di attitudine per fare qualcosa che sia collettivo e non individualizzato e individuale, dove fai il tuo rant su internet per 5 minuti, pensi di aver fatto l'attivista, non hai fatto un cazzo, no? io Scorreggione su Twitter che scrivo Salvini merda, non ho fatto niente di politico nel senso di costruzione di collettivo, di senso e di portare delle pratiche che, no, mi rendano visibile e riconoscibile come un'alterità al dominante ed essere una possibilità per altri. E quindi poi magari da lì tu nel fare cose non ti accorgi, ma stai creando anche immaginario per chi ti è intorno, perché incominciano a vederti che tu non stai lì fermo a usare solo Facebook, ma stai facendo dei tentativi e magari trovi qualcuno che ti vuole aiutare. E allora lì metti in moto di nuovo la relazione che parte dai corpi, dalle persone, per poi trasformarsi anche in riflessi nel digitale di pratiche, tematiche, contenuti, senso politico che stai spingendo e vuoi spingerti. Prego, grazie, perché io veramente... Mandatemi via. No, ma invece no, ti vogliamo di più. Cioè, ti vogliamo. Cioè, funziona perfettamente, una macchina da guerra, Bomboclat. Cioè, lo rivogliamo qua almeno un paio di volte l'anno, così. Perfetto. E poi lo ricacciamo. No, ma infatti me lo stavo chiedendo. Ma infatti me lo stavo La prossima volta ci faremo trovare preparati. Arriva dalla regia un aiuto, meno male che c'è l'aiuto alla regia. C'è pubblico, al pubblico. Allora, via. Prego, prego, prego. Ma, prego. In realtà allora, le risposte ci sono, non è che le risposte non ci siano. Sicuramente, come dire, occorre partire da degli elementi che sono più di metodo, per cui dobbiamo lavorare sul metodo e dobbiamo lavorare sulla formazione. Cioè la domanda giusta è come facciamo a diventare una comunità di apprendimento, non tanto come le tecnologie possono aiutarci. Se noi riusciamo a capire come condividere le competenze, attraverso la condivisione della competenza non diventiamo tutti ingegneri, tutti hacker, ma questa competenza diffusa creerà nuovi personaggi inaspettati, e attraverso questi elementi inaspettati la nostra comunità si arricchisce di possibilità. Quindi, non so, prima abbiamo salutato PBM, ok, che non c'è più, è andato. Allora, PBM è stato un maestro. PBM era un mega hacker, era proprio uno, forse quello che io ho conosciuto il più figo. E anche chi? Megabug. Anche Megabug, è vero. Però Megabug io avevo, era più, diciamo, era più un fratello. Invece di PBM avevo un po' paura, obiettivamente. E lui faceva delle cose davvero magiche, la gente si rivolgeva a lui con grande così referenza. Dopodiché però la questione, cioè la vera sfida, era riuscire a trasportare le competenze di PBM su, come dire, una comunità di persone che era fatta di gente, come dire, qualcuno magari ci aveva anche il desiderio di diventare sistemista, ma erano uno, due, cinque. Però, cioè, come dire, io mi ricordo che ci ho giocato dei videogiochi con PBM. La questione era lavorare su una formazione a multilivello, per cui persone come me avevano bisogno di fare quella che una volta, con un nome terrificante, si chiamava corso di informatica popolare, adesso magari chiamiamolo in un altro modo, e erano i corsi di GNU Linux. Ed erano, come dire, tenuti da persone che non erano abituate a insegnare, per cui che in realtà loro stesse dovevano imparare ad insegnare. A un certo punto hanno provato anche a fare un manuale per gente come me, che era un manuale difficilissimo, dove non si capiva dove scrivere gli appunti, perché erano magari manuali fatti da persone che facevano i programmatori nella vita, non facevano gli insegnanti. E quindi in realtà era molto difficile, eppure siamo riusciti a fare dei passaggi. Oggi, come dire, io suppongo che qua dentro ci siano un tot di insegnanti, ci siano un tot di persone che si occupano di pedagogia, di metodi pedagogici, di educativa di strada. Cioè il movimento da quel punto di vista è andato avanti un casino. Quindi in realtà noi abbiamo le competenze per capire come imparare. Ci basta semplicemente provare a organizzare questo tipo di formazione. Gli hacker avevano anche questa particolarità, come dire, di condividere, lo chiamavano proprio sharing, dove lo sharing non era soltanto, come dire, condividere i file su internet, gli MP3, era anche condividere le competenze. E un po' questa cosa era un po' naif, nel senso che non è che ci avessero gran metodi, come dicevo, però ci provavano, cioè iniziavano tra di loro e a un certo punto, come dire, con metodi super grezzi anche, tipo guardi i vecchi che giocano a carte, dopo un po' capisci come funzionano alcune cose, nel senso che ti impadronisci quantomeno di alcuni termini. ti impadronisci di un contesto, riesci a capire degli elementi attraverso i quali poi, come dire, siccome vivi lo spazio sociale collettivamente, inizi a introdurre anche altre, a dire ma vieni alla scuola di informatica popolare, perché no? Mi hai anche ricordato, mi hai anche ricordato di nuovo, vorrei sfatare una cosa, no? Al solito i nerd sono maschi, bianchi, e in realtà però le cose, tante cose belle sono arrivate per prime da compagne. Per esempio mi viene in mente i corsi dell'OA, che era fondamentalmente una tribù all'80% almeno di maschi, e c'aveva comunque una componente femminile minoritaria. Però per esempio nello stare al Bulk e nello stare vicino ad altri collettivi, era nato al Bulk all'epoca, insieme quando c'era l'OA, era nato anche Chain Workers, e Chain Workers era nato come webzine, però era un elemento esterno, diciamo, alla comunità di nerd barbuti, cioè era Zoe, era una donna che ha fatto la webmaster di Chain Workers all'inizio, ed è stata lei che è venuta da noi e ha detto: oh, svegliatevi, qua bisogna insegnare, mi propongo io per prima di fare il corso di HTML perché serve al mio collettivo. Ok? Perché lei non voleva essere il collo di bottiglia del suo collettivo, perché se il suo collettivo si esprime principalmente come webzine, non sta in piedi se è solo Zoe a fare la webmaster, tutto il collettivo di Chain Workers dovrebbe. Però a quel punto l'abbiamo aperto to court, facciamo il corso di HTML per tutti, poi quelli di Chain Workers sono venuti in pochi, però e Zoe un po' ci è rimasta male, però lei è stato l'esempio che ha fatto un corso in maniera semiprofessionale, come diceva lei, però meglio forse di come l'abbiamo poi fatti noi, che ci siamo buttati dietro. Un corso in cui c'erano le lezioni, i compiti a casa, le risoluzioni postate online la settimana dopo, aveva messo in piedi un programma ed era, avendo documentato tutto, il giro dopo l'ho fatto io il corso di HTML, perché ho detto: Zoro, lo so anch'io, posso darti il cambio. E perciò arriva uno con una competenza, fa da kickstarter di qualcosa, lascia della strumentazione per chi viene dopo, in modo da non essere collo di bottiglia, e arriva un altro che ha imparato vedendo come insegnare, a dire: ok, io conoscevo il linguaggio, però tu mi hai fatto vedere anche che c'è un corso strutturato in lezione, eccetera eccetera eccetera, faccio il passo anch'io. E così sono seguiti anche tutti gli altri corsi. Ok, e quindi... torniamo sempre a condividere saperi senza fondare poteri. Esatto. Poi alla fine quello era uno dei... Ma posso dire una cosa? Prego. No, grazie, ma mi metto qui perché non ne dirò uno, ovviamente chi mi conosce lo sa, ne dirò un sacco e vabbè, cazzi vostri. Ma a parte questo, sono un po' agitata perché questo non è proprio il mio tema, chi mi conosce lo sa, però sono molto contenta e mi viene prima di tutto molto da ringraziare anche per questo libro, perché chi non ha fatto Indie Media ma ha vissuto Indie Media e dentro a tutta quella dimensione lì, almeno io, cioè, non mi sono resa conto davvero di che cazzo stavamo facendo. Stavano poi di più, però stavamo, perché nel livello di condivisione lo stavamo facendo. E questa roba qua è una cosa che io ho dato poi un po' per scontata, poi è finito, poi è nato altro, poi ci sono arrivati i social network, gli smartphone, tutta quella roba lì, e tutto sommato, vabbè, era una roba normale. Ora, se la rileggo oggi, con questi occhi, con gli occhi di qualcuno più giovane, ma anche ripensandoci, in effetti, in modo un pochino più approfondito, sì, è stata uno strumento di libertà, pazzesco, effettivamente pazzesco. E quindi ringrazio del libro perché ricostruisce quella cosa. Mi ricollego a quello che stavo dicendo giusto ora, Bomboclat, perché in questo ventennale di Genova, per la prima volta in 20 anni, ho seguito 72 dibattiti e incontri pubblici su Genova, perché ho deciso evidentemente che era il momento di farlo. Elaborazione del lutto 20 anni dopo, vabbè, quindi già c'è qualcosa che non funziona tecnicamente, però va bene, comunque l'ho fatto, lo sto facendo, sto elaborando il lutto evidentemente. E in tutta questa situazione di incontri, video, cose là, c'è questa è quella con la maggiore presenza femminile di tutte quelle che io ho visto online e fisiche. Ora, grazie, che c'è una ragazza giovane che applaude, perché forse la stiamo dando per scontata anche qui, ma noi che oggi, noi, io e altre compagne con me che oggi facciamo principalmente non più il centro sociale e la politica generalista, ma magari non una di meno, e i collettivi di genere, questa cosa qui, cazzo, a me mi interroga, perché 2 giorni fa ero a Lambretta a dire le donne nel movimento di Genova non contavano un cazzo. Ora, che è vero, no, contavano poco, Manu, contavano poco. Cioè, obiettivamente, era un movimento, è stato un movimento che non è, cioè, non ha espresso proprio nelle dimensioni del genere proprio il suo meglio, diciamo, ma negli anni, adesso va bene, si è trasformato. Questa cosa qui invece ha fatto altro. Questa cosa qui evidentemente ha portato poi una dimensione di orizzontalità, mi viene da dire, di possibilità di partecipazione, di apertura, che in realtà non era quella del movimento generalista, è stata un'altra cosa. Non era quella che facevo io, e quindi mi ritrovo oggi a osservarla con uno sguardo che non era quello di una persona che c'era dentro, Per cui mi chiedo anche effettivamente poi cosa sia e come sia stato possibile. In una storia poi che ci dice, in una cultura che ci dice che le tecnologie, le materie scientifiche non sono peraltro cose da donne, no? E per cui ci sono i bandi per far andare le ragazze all'università a fare materie scientifiche e fargli fare i progetti scientifici. Bravissima. E quindi anche questo mi fa dire, cavolo, quanta avanguardia c'è stata in questo movimento qui e in questa azione politica che è stata fatta in quegli anni rispetto a quello anche che siamo oggi. Faccio poi, per finire, giuro, solo una domanda così, ma perché con Ambrosia un po' di domande ci si sta facendo da un po' di tempo su, per esempio, Mastodon. Che poi ve lo spiegano bene loro che cos'è, perché io ancora non ho capito, perché appunto, come dicevo, non è esattamente il mio tema di lavoro, per cui ci sta, no? Però se penso appunto ai social network, a come stare fuori da una dimensione mainstream e commerciale, può essere una soluzione, e come può essere una soluzione. E poi, se mi ricollego, perché poi cioè, Anaia ha aperto tutto il tema, no, della pedagogia, in qualche maniera della comunità di apprendimento, che un po' mi tocca, ma, e che mi fa dire poi, però, come facciamo noi a comunicare con i giovani, che non sono magari i giovani attivisti, perché con i giovani attivisti è difficile comunque, lo stiamo vedendo, ma comunque forse c'è dello spazio, e come facciamo poi a comunicare in senso più ampio questo tipo di riflessioni, perché quella cosa a me, educatrice, bla bla bla, a me rimane, perché continuo a fare fatica, nel senso che poi riuscire a scardinare il meccanismo del social network, dell'immediatezza, del non doversi fare domande su come funziona il media e lo strumento, del farlo e basta, della velocità, eccetera, io mi sento disarmata su questo. Facciamo prima noi donne. Sì, grazie, boom, grazie. Volevano. Allora, nel libro c'è un pezzo che ha scritto Cristina, dove racconta l'hack meeting di Catania del 2001, che è proprio quello immediatamente precedente a Genova. Granita al caffè. Giugno. Dove è stato anche presentato ufficialmente Autistici Inventati, no? Inventati, questo ancora rimane. Questo è aperto e che ci piace. No, ancora così. Arrivano le mail. Una birretta, volentieri, grazie. Birra. Sì. E vabbè, e lei racconta, siamo andate insieme a Dagnese, altra due di Danielina di Onda Rossa e un'altra di Candida a questo hack meeting, e siamo guardate intorno, era il nostro primo hack meeting, non eravamo state nemmeno a quello a Roma, al Forte, e erano tutti maschi, non c'era nessun altro oltre a noi, e lei veniva da un percorso comunque femminista, dove era sempre stata con compagni, eccetera, e racconta proprio di quanto si è stupita di come potesse essere tranquilla all'interno di un ambiente quasi prettamente maschile, e dove però ci si ritrovava nel fare e nel condividere, perché subito là ha iniziato quel percorso di condivisione dei saperi proprio e anche di scambio, e già era cominciato là. Facendo il libro ci siamo anche posti il problema rispetto alla presenza almeno femminile, e ci siamo resi conto, perché ne abbiamo discusso tra tanti, che comunque queste cose non ce le ponevamo proprio, cioè stavamo talmente tanto avanti che non era un problema quello della presenza femminile o del dover bilanciare oppure no, semplicemente stavamo tutti insieme, si condivideva e si apprendeva. E poi c'è un altro elemento, che è quello dei NIC. Noi ci siamo conosciuti, la maggior parte di noi, al di là di quelli che lavoravano sui territori e già si conoscevano, ci siamo conosciuti in rete attraverso la mailing list, attraverso le chat, usando dei nick che non sempre erano, cioè non lo so, rosa o celeste, X name, maschio o femmina, maschio o femmina, Siba, cioè nel senso, quindi anche su quello magari, cioè proprio in qualche modo già essere un po' gender fluid ancora prima che se ne parlasse, pure su quello era, non era un problema, non era una tematica, e quindi stando, cioè non c'era nessun tipo di disparità. Poi sì, è vero, alcune dinamiche testosteroniche comunque in qualche modo potevano sempre uscire fuori, però non era, cioè era veramente molto molto molto fluido, eppure scambiare era, nonostante magari c'è stato proprio un livello di cura in più delle donne rispetto alla comunità cara, perché comunque eravamo un po' diversi, però era pure su quello. E quindi stavo, anche se non sembrerebbe, anche se tutta la parte prettamente tecnica sembra più essere maschile, non era così. No, io anch'io volevo dire, questa storia dei nick è stata fondamentale, perché ripeto, cioè tu potevi avere qualsiasi età, qualsiasi sesso, e succedeva che nessuno se ne fotteva, ma nessuno neanche ti chiedeva scusa, ma tu sei un uomo, una donna, quanti anni hai? Perché all'interno di quella situazione quello che era importante era il contenuto, cioè noi stavamo facendo delle azioni politiche di contenuto, e quindi quando sei concentrato sul contenuto, chi cazzo se ne frega se sei maschio o femmina? Cioè era proprio una cosa che non ti veniva in mente. Poi può anche darsi che sia vero che la maggior parte dei nerd effettivamente erano maschi, ok? Però nel momento in cui tu hai costruito un collettivo che si basa sul contenuto e sullo scambio, a quel punto non so spiegarmi la magia, però c'è stata quella magia, assolutamente c'è stata. C'è stata totale. Nessuno aveva, io personalmente, ma molte altre non hanno mai sentito nessun attacco da parte maschile, nessuna differenza di modo di pensare neanche. A parte appunto quando uno si scazzava, che magari sì, nel flame le modalità maschili dei flame gestiti dai maschi erano diverse dalle modalità dei flame gestiti dalle donne. Questo è sicuramente vero, ma erano flame, lo riconoscevi, lo riconoscevano tutti, e poi chi se ne fregava se era, vabbè, il carattere iniziale era maschile o femminile, poi si discuteva della cosa. E questo secondo me è stato molto bello, e ripeto, e non era solo sesso e basta, perché era anche età, perché io che ero molto più vecchia non ho mai avuto nessun problema. Chiunque poteva entrare, chiunque poteva fare, l'importante era cosa sei qui a fare, che scambi mi stai dando. Il problema anzi era che c'era gente che magari entrava, stava lì e non scambiava un cazzo. Allora quella persona sì, veniva in qualche modo trattata in maniera sospettosa o esclusa, cioè si cercava di evitare questa cosa, no? Cioè c'erano altre modalità, se vuoi, di normali comportamentali umane, che sono appunto l'esclusione, l'allontanamento, tutte queste cose qua. Ma perché appunto uno che era in mailing list e faceva magari un intervento al mese, alla fine ti domandavi anche che cazzo sei qua a fare, sei qua per spiarmi? Per cui, ecco, erano più quelle situazioni che davano fastidio. Io volentieri prima di Mastodon, anche perché Mastodon è una noia mortale, proprio. È ininfluente per quanto mi riguarda, però... Io in realtà sono molto d'accordo invece con quello che diceva Martina, nel senso che non era solo sesso, certo era anche amore, però erano solo maschi, erano solo maschi, e questa cosa non si può dire che fosse completamente neutra. Non è neutro un ambiente dove ci sono solo maschi, è un ambiente necessariamente maschile, e quindi, come dire, ti confronti con quella cultura lì. E non è facile confrontarsi con quella cultura. Ora, sono d'accordo che sia importante spezzare una lancia nei confronti dell'ambiente di Hack Meeting, e adesso vi dico però perché. Gli hacker di prima generazione, quelli un po' che abbiamo conosciuto noi, che venivano dal cyberpunk, erano dei soggetti, erano pochi, ed erano dei soggetti vagamente Asperger, non so come descriverveli. Ok, erano dei soggetti che, esatto, non è un caso che il server si chiami autistici, e non è un caso perché alcuni di loro ti parlavano senza guardarti negli occhi, ti guardavano il centro della fronte, non ti guardavano negli occhi, e tu dici, ma che... Cioè, ci mette anche un po' di tempo a capire che cosa stesse succedendo esattamente. E spesso erano persone che avevano delle anche difficoltà fisiche, nel senso che avevano proprio delle insufficienze toraciche. Sì, sì. Io sono stata per anni insieme a un ragazzo che aveva l'insufficienza toracica, lo adoravo. Era, insomma, era un po' rachitico, non è che proprio fosse, insomma. Però lo adoravo, per me era fantastico, bellissimo, però aveva il busto piuttosto stretto. Ed era assolutamente tipico, nel senso che certo trovavi anche il gigante, però magari era timido. Ecco, erano dei maschi un po' particolari, non erano esattamente lo standard, del maschio italiano che guarda la partita. Questo lo possiamo dire, penso che questo lo possiamo dire. Dopodiché però era un ambiente maschile, e noi sappiamo bene che il maschilismo si cela ovunque, ed è ovunque, permea tutta la società, permea persino le donne. Quindi noi non possiamo dire di essere scevri dal maschilismo, siamo tutti peccatori di fronte al maschilismo. Quindi un po' forse, dobbiamo cominciare a dirci questo anche per capire come risolvere la problematica. C'è una cosa che si chiama fallologocentrismo, ok? Che non è, è un tipo preciso di maschilismo, ok? È un tipo preciso di maschilismo che ha a che fare con il logos. Logos vuol dire conoscenza in greco. È un tipo di maschilismo che ha a che fare con i saperi. E fino adesso abbiamo parlato appunto di condivisione dei saperi, abbiamo parlato di come si fa a trovare un metodo pedagogico, come facciamo a essere una comunità educante. Questa cosa ovviamente, quando sei di fronte a una cultura il cui logos è interamente, permeato dal maschilismo, è una cosa abbastanza complicata da fare. Questo non significa che non si possa fare, o che alcune di noi non siano riuscite a farlo, che alcuni di noi maschi non siano riusciti a farlo. Si può fare, è difficile. Non voglio dire che la comunità di Hack Meeting non abbia mai cercato di interrogarsi, perché in alcuni momenti ha cercato di interrogarsi. Io mi ricordo degli Hack Meeting dove sono venute le ragazze del Sexy Shock di Bologna e hanno cercato di fare degli interventi femministi in forma di workshop con i ragazzi dell'ACLAB, degli ACLAB italiani, perché l'Hack Meeting era il raduno nazionale delle controculture, si fa ogni anno, potete venirci, il prossimo sarà a Bologna, e venite a vedere che cos'è. Naturalmente, non troverete tanti workshop di facile lettura o di facile fruizione, e questo fa parte anche della cultura chiusa, tecnica, che fa sì che alcune cose siano fatte da una certa soglia in avanti. È chiaro però anche che la comunità si fasa nella dimensione pedagogica anche un po' in base agli elementi che la compongono, per cui se la comunità si impoverisce, la comunità hacker si impoverisce di elementi, non ci sarà più chi si mette lì a dire ma quest'anno non lo facciamo il corso, non facciamo una cosa per la popolazione della città più teorica dedicata magari alla divulgazione dove si parla di che cos'è il profiling, se nessuno si mette lì a fare accoglienza a bassa soglia, l'accoglienza a bassa soglia non c'è. Però è necessario farla, ed è necessario farla appunto con quei criteri di cui il femminismo, cioè la pedagogia femminista, possiede i criteri, possiede gli strumenti per decostruire l'ambiente. E, come dire, verosimilmente io credo che la comunità di Hack Meeting sia disponibile, e lo sia sempre stata, a decostruire. Quindi l'invito è anche quello, a partecipare e a cercare di capire come fare a, come dire, penetrare quelle maglie e far uscire le menti e trovare una contaminazione possibile, perché poi si tratta di contaminarsi. Si tratta di contaminarsi e capire che cosa viene fuori. Non c'è una ricetta precisa, però ci sono dei metodi che possiamo utilizzare. E basta. Prego. Sì, io vorrei fare un lungo discorso sulle società matrilineari che caratterizzavano l'Europa prima della prima del Neolitico, e ricordare che le società... Abbasso il Neolitico, perché col Neolitico poi è arrivato il patriarcato. Allora, le società matrilineari, che non erano matriarcato, perché non era il potere delle donne, ma erano matrilineari, vuol dire che erano sostanzialmente le donne che organizzavano la maggior parte della società, ma c'era un rapporto paritario maschio-femmina, per cui anche i maschi avevano un loro ruolo preciso. Allora, queste società matrilineari, guarda caso, erano basate sulla condivisione, sulla cura, sulla e su tutte quelle cose che sono la condivisione dei saperi. E le stesse cose che sono state dette in tutta la serata, cioè, e tutte le cose che hanno caratterizzato in di media gli Hack Meeting e tutto questo, diciamo, universo che ha creato tutte queste cose contemporaneamente. Quindi è vero, c'erano i maschi, è vero, ogni tanto si comportavano da maschi, è vero, la maggior parte dei nerd erano maschi, però nel momento in cui la regola è quella della condivisione e della condivisione dei saperi, eccetera, che è matrilineare, è una caratteristica matrilineare, mi permetto di dire che il discorso... Che erano degli ambienti femministi. Esatto, sì. Beh, a me il femminismo però... Eppure la cura non è da sottovalutare, la cura delle relazioni, cioè quello che stava dicendo prima Bombo rispetto a quello che si è messo in moto con una chat, c'è una comunità che ancora non ci siamo visti né sentiti per 15 anni, molti sparsi su 3 continenti, è come se non fosse 4, mi sono perso uno, l'Antartide, no, ok, 3 continenti e comunque c'è, cioè, come attacchiamo la Kamchatka. È come se non fosse passato il tempo, perché appunto condividevamo delle cose di base che erano, cioè, un metodo e appunto tutto quello che ci siamo detti durante questa serata, e quelle cose sono rimaste ancora forti perché andavano oltre tutto quanto, e quindi permette di ribeccarti dopo 15 anni e boom, succede una magia e fai quello che non eri riuscito a fare nei 10 anni precedenti. E non è un caso, non è che siamo semplicemente matti, è che quelle cose erano fatte veramente in un certo modo, e è durato pochissimo, è vero, questo ce lo possiamo dire, nel senso che poi è andato dal 2000 al 2006, quando più o meno, anche se poi è rimasto online oltre, però insomma, vabbè, quel pizzico di, cioè, è rimasto, mi sono partita a essere stanca pure io. Prego. Ci basta, no? Ma su Mastodon che è di scarso interesse, no, dai. Guarda, io non sono un esperto di Mastodon, quindi ti posso dare la mia informazione parziale per quella che ho e per come la vedo, poi non penso di saperne più di altri, penso che ci possano essere altri più informati. Per quello che ho visto, ho capito, è una piattaforma che tenta di mimare le azioni e comportamenti che avvengono nei social media, quindi la pubblicazione di post, i like, i commenti, eccetera, queste robe qua, su una piattaforma che si propone come decentralizzata, per cui tu puoi mettere su la tua istanza, eccetera. Però io non sono convinto non sono particolarmente attirato dalla dalla tipologia di comunicazione che si va a esprimere, cioè quella individualizzata, individui che si mettono i like, si passano i meme, è di nuovo cerchi di replicare in un ambiente tuo una dinamica di intrattenimento potenzialmente, perché ti stai dando uno strumento che sta cercando di mimare l'originale, che vuole fare intrattenimento, e ho paura che si finisca per riproporre anche i comportamenti su quella piattaforma, che sono quelli della distruzione di senso, come la criticavo io. Poi è una mia opinione, non penso che per forza deve essere di tutti, però per questo motivo non sono particolarmente emozionato da Mastodon, perché ho paura che appunto di partecipare a quella roba non mi interessa come tipo di strumento. Poi non sono neanche particolarmente attivo politicamente da dover giustificare una mia presenza su Mastodon, perché faccio con altri la scelta di andare su Mastodon, e come individuo io, oltre a autistici, non voglio avere account se possibile. Ma mi fermo qua, perché in media sta girando tantissimo su Twitter. Cosa? Come, scusa? In media sta girando tantissimo su Twitter. È perché lo spam, abbiamo fatto spam. Vabbè, voglio dire, va oltre noi. Noi facciamo un gesto da una parte, poi qualcuno lo prende da lì, lo passa da un'altra. Bisogna capire cosa significa girare. Cioè, c'ha un libro comunque in uscita. Senza microfono, no. Vabbè, c'ha un libro in uscita. Comunque il cadavere è stato rimesso là in qualcosa. Cioè, è normale che se ne parli. Sono al ventennale del G8, stanno uscendo degli articoli. È normale che poi le cose si diffondano in ogni modo. Io faccio la social media manager, quindi proprio c'è. Che è evidentemente il mio contrappasso, però cioè non è che le puoi fermare poi le cose, però rispetto, forse c'è una cosa che ci manca che non abbiamo detto, che è la consapevolezza, che è la consapevolezza di come vengono usati gli strumenti, la consapevolezza di quello che tu hai davanti. Cioè, io lo uso Facebook, ma lo uso per quello che mi pare a me, nel senso non vado a fare le mie quella è l'immagine, quella deve essere l'immagine, se voglio far girare delle cose e farle arrivare anche a un certo pubblico, cioè a un certo punto lo uso, tendo di dargli il meno possibile i miei dati e le mie cose, non mi metto a fare le foto, non condivido momenti personali, però questo vabbè è estremizzata, però la consapevolezza rispetto allo strumento che tu hai davanti, proprio perché la tecnologia non è comunque neutra, alcuni strumenti sono stati fatti apposta, creati apposta per tenerti dentro tutto il tempo, e questa è una cosa che può valere per i videogiochi così come può valere per i social. L'unica cosa che puoi fare è imparare ad avere dotarti di altri strumenti per capire come muoverti all'interno, se proprio non ne puoi fare a meno. Però la consapevolezza mi sembra, poi lo dicevamo pure su altri percorsi, no, figurati, no, lo dicevamo anche su altri percorsi, e ce l'ho col bulk pure, no, che era uso consapevole, cioè tutto il percorso fatto con MDMA, che era il movimento di massa antiproibizionista, era per un uso consapevole delle sostanze, non è che puoi essere proibizionista, perché non puoi proibire. La proibire non è mai la soluzione da nessun punto di vista, no? Cioè, puoi semplicemente imparare a capire come relazionarti, a dotarti degli strumenti per non finire, che ne so, nel loop dei videogiochi e tirarti fuori da quella cosa, capire che i social sono fatti apposta per tenerti dentro e non farti uscire, e in qualche modo agire di conseguenza. Però la consapevolezza nell'uso degli strumenti, con qualsiasi strumento o qualsiasi altra cosa tu hai a che fare, la dovremmo sempre tenere a mente, e fa parte anche questo di tutto un percorso che era nato in quegli anni, che magari sono anni che si sono a un certo punto bruciati, sono finiti, sono esplosi, sono stati altissimi, e poi fa parte anche del motivo per cui abbiamo fatto questo libro, perché c'è un po' la sensazione che ci sia stato un buco generazionale tra noi e la generazione che è arrivata dopo, che è differente ancora rispetto al modo in cui si approcciano i 18-20 anni di adesso. Però tra quella che è stata la generazione dei ventenni di 20 anni fa e quelli arrivati immediatamente dopo, c'è effettivamente un buco. che siamo stati noi a non lasciare delle robe, tanto che la storia di Indy non era ancora stata raccontata, il sito non c'era, o che sia stata una mancanza rispetto alla generazione che è arrivata dopo, perché io a quelli degli anni 70 gli andavo sotto, io chiedevo, cioè nel senso, nei libri non è che venivano loro, sì, venivano pure, cioè stavi là che ti attaccavano pure le pippe, sì, era proprio il catechismo, però se c'erano delle, no, però erano loro che ti volevano catechizzare, no, e portare in quella direzione, che è la cosa che ci hanno fatto a noi e per cui noi a un certo punto non abbiamo più lasciato niente, perché non volevamo ripercorrere lo stesso errore, però siamo andati da un estremo all'altro. Però se io volevo sapere delle cose e quelle cose mi incuriosivano, io me li prendevo e gli chiedevo, no, ma mi devi dire sta cosa, no, quello che ti pare a te, cioè, e questo scambio, questo tipo di scambio comunque non c'è stato con la generazione dopo, e è per questo pure che c'è stato questo tentativo, cioè questa cosa di riraccontare una storia, di lasciare il cadavere online e renderlo fruibile, più fruibile possibile per chi arriva dopo. Però è proprio, no, una storicizzazione in qualche modo. Vabbè, scusa, finito. A questo punto, allora, io sono la brutta persona che deve poi a un certo punto chiudere. Salvaci. No, assolutamente non penso proprio, anzi. Penso che sia proprio l'ingrato compito anche questa volta. In realtà io con l'ingrato compito lo vorrei rendere ancora peggiore. In realtà peggio per pagare le birre, no. Allora, se siamo veramente in conclusione, ovviamente chiunque voglia fare domande ben accetto, ben accetta. Una domanda però bisogna la fare, cioè bruttina come al solito, ma com'è finito tutto questo? Non lo sappiamo. Però dopo ce n'è un'altra più bella. Però almeno un tentativo bisogna farlo. Perfetto. Qualcuna si è distratta. Prego. Se è possibile spiegarlo. L'avevo già detto prima, non mi ripeterò. Pagani. Vabbè, da una parte c'è una cosa che voglio dire su questo, è che tanta libertà a un certo punto l'abbiamo pagata. Nel senso che il Newswire è bello, tanto bello l'open publishing, e poi abbiamo finito per passare le notti a cancellare i commenti, perché comunque a un certo punto era diventata veramente una roba che era, cioè il rumore di fondo era arrivato a sovrastare quelle che erano le informazioni pulite, era diventato veramente di difficile fruizione, e questo scotto l'abbiamo pagato, e questa cosa va detta e va riconosciuta. Ci ho passato le notti, davvero, io l'avevo rimossa questa cosa, ho passato le notti a cancellare i commenti, perché il tipo di censura era comunque, non era preventiva, al di là dei paletti, lo dicevi prima, lo mettevi come policy, però poi alla fine non è che lo la rispettavano tutti queste cose, quindi però a quel punto Italy aveva già chiuso, cioè nel senso il gruppo storico aveva già deciso che Italy non c'era più, e quindi a un certo punto è diventato un aggregatore, perché si erano creati dei noti locali e Indie Media Italia da questo punto di vista un unicum a livello storico nei vari nodi di Indie Media, cioè era stato un unico nucleo grande che a un certo punto era troppo, cioè nelle liste erano iscritte 500-700 persone, una roba da gestire col metodo del consenso che era, non si poteva fare, quindi a un certo punto sono arrivate un sacco di liste e poi si sono creati i nodi locali che erano un'emanazione della parte centrale, non era la confederazione, non è che erano nati prima i nodi locali e poi si sono confederati, no, in un, è stato il contrario, è stata una filiazione che c'è stata. E però a un certo punto sono rimasti semplicemente i nodi locali, e l'esperienza Italy ha chiuso per colpa del Newswire, ha chiuso per colpa forse anche delle mailing list e dell'incapacità di cioè davvero 500 persone nelle liste col metodo del consenso che era quello che ci eravamo dati, erano abbastanza dovevamo sviluppare altri strumenti. C'è chi pensa che era un'esperienza che andava chiusa, queste cose escono tutte fuori ovviamente, perché è tutto un flusso d'autocoscienza il libro, perché si basa sullo storytelling, quindi sono tantissimi punti di vista che si incontrano e sono diverse narrazioni possibili, infatti è una storia possibile, potrebbero essere infinite altre. E sono persa, vabbè, c'è chi pensa che comunque quell'esperienza andasse presa e chiusa così, chi pensa che invece abbiamo peccato, che avremmo dovuto trovare un modo per evolverci, ma uno dei vari modi per evolvere era probabilmente quello di fare il salto e diventare un po' più redazione rispetto a quello che era prima, darsi dei metodi di finanziamento, perché banalmente qua ritorna anche uno dei temi dei centri sociali, perché banalmente più tempo gli devi dedicare a una cosa e te devi mantenere, non è che non è che tutti hanno, già a un certo punto finisci l'università, finisci le cose o comunque hai delle esigenze, e forse a quel punto si sarebbe anche dovuto porre il problema di un autofinanziamento. E era una cosa a cui Indie Media, per come era stata fatta, creata, costruita, per le regole che c'era stato, che ci eravamo dati, perché nessuno le ha date, sono state costruite dentro nel percorso, non era evidentemente possibile, no, andare avanti, e quindi a quel punto si è esaurita. Ci resta un sacco di malinconie, di cosa, come di rammarico, pure nel di forse saremmo riusciti a fare altro, a portarla avanti in un altro modo, questo ormai non si può dire. Certo è che ha lasciato una comunità che è tornata dopo 15 anni e che comunque c'ha, comunque ancora a me mi riempie il cuore, e questa non è una cosa né scontata, non è assolutamente scontata, è bellissima poi alla fine. A questo punto sul serio faccio l'ultima domanda, perché è stata la cosa che abbiamo anche cercato di fare con la radio in questo mese e mezzo prima di Genova, cioè quella di raccogliere delle esperienze di chi era a Genova, per poi finire con una domanda che era: per quanto sia stato represso, picchiato, ucciso, torturato, il movimento di Genova comunque era estremamente potente, anzi forse è per quello che è stato picchiato, torturato, ucciso, represso, perché iniziava a rappresentare veramente qualcosa che forse avrebbe messo in difficoltà il potere. Ora in questo momento, cioè se ci dobbiamo guardare noi stessi che facciamo movimento in questo momento, ci rendiamo conto di quante cose non siamo, cioè non un movimento poi così forte, così imprescindibile rispetto alla politica di Parlamento, insomma alla politica ufficiale. A questo punto allora ci è venuta la domanda, e l'abbiamo fatta anche ad Anahi, che abbiamo intervistato, anche ad altre persone, rispetto, cioè, se si può dire tra le tante cose che ci mancano adesso per tornare ad essere così, senza bisogno di fare la fotocopia, senza pensare che ci sono le ricette già fatte, cioè noi vorremmo chiedervi, per quanto concerne la vostra attività militante ai tempi, cos'è che vedete che manca ora e che forse dovrebbe tornare ad esserci, se magari si potesse, volesse tornare ad essere così. Prego. Posso dire una cosa? Secondo me non è che si è, cioè, a cosa fai riferimento? C'è la gente che faceva politica prima, c'è la gente che fa politica anche adesso. Sono cambiati alcuni ragionamenti, però io prima di tutto, per esempio, sono molto critica rispetto a chi dice che con Genova è morto il movimento, perché in realtà tutte le tematiche di Genova sono andate avanti un casino, semplicemente invece di andare avanti come movimento di massa sono andate avanti in tante piccole diverse realtà, ma queste realtà hanno portato avanti tantissime iniziative che hanno anche contribuito a cambiare drasticamente il panorama, perché sarebbe potuto essere molto peggio a questo punto. Invece, se non siamo proprio ancora al peggio dei peggi, è perché queste realtà hanno portato avanti i contenuti di Genova lottando separatamente. Allora, se vogliamo, la differenza è che una volta c'era il movimento di massa in cui ci si poteva riconoscere, nonostante fosse al suo interno formato da mille realtà diverse. Adesso è più difficile ragionare in termini di movimento di massa, ma guarda caso, tra l'altro, in più c'è arrivata pure sul coppo la pandemia. Io direi che la società di massa è finita, cazzo, e per fortuna che è finita, perché vabbè, io personalmente poi sono anche una che non ha mai creduto al comunismo cinese, esattamente perché era comunismo di massa, per cui per quanto mi riguarda politicamente non riconosco quella realtà come positiva, per cui a me non interessa che ci siano 500.000 persone che la pensano allo stesso modo, perché essendo profondamente anarchica ritengo che sia molto più interessante che ciascuna singolo filo d'erba viva la sua splendida vita nel prato, ma proprio perché lui vive la sua splendida vita nel prato, crea il prato, che è un ecosistema complesso formato da milioni di diverse realtà molto diverse tra di loro, e nello stesso tempo collaborano tra di loro e fanno rete e creano un ambiente bellissimo che è il prato. Allora, torno qua finalmente a inserire le tematiche ecologiche, di cui mi sono assolutamente fondamentale. Fanno parte della mia esperienza e io sono una ecopunk. Allora, per fortuna abbiamo capito che c'è il cambiamento climatico. Io spero che la gente finalmente arriverà a capire anche cosa significa questa cosa. Questa cosa significa che noi dobbiamo cambiare radicalmente il nostro modo di agire, ma anche quindi quello di fare politica, ripeto, perché se no rimaniamo sempre nel capitale. Cioè, se ragioniamo politicamente anticapitalisti, ma abbiamo le stesse modalità capitalistiche, non andiamo da nessuna parte. Allora, che cosa sta creando di importante l'informazione che c'è il cambiamento climatico? Che forse piano piano, finalmente, un po' lentamente a mio parere, la gente imparerà a scoprire che in natura le regole sono totalmente diverse da quelle che noi abbiamo applicato per almeno 5.000 anni da questa parte. Per tornare al discorso delle società matrilineari precedenti al Neolitico. Allora, noi dobbiamo tornare esattamente a quel livello là. Le società matrilineari non solo erano matrilineari, quindi condivisione, cura e tutte quelle cose lì, ma anche avevano un rapporto con la natura diretto che faceva sì che loro stessi si comportassero in maniera diversa tra di loro, rispettando le diversità nella maniera più totale. Per cui, per esempio, i transgender erano delle persone importanti in una famiglia, proprio per la loro unicità, per la loro tipicità. Ok? Allora, fin quando noi non riusciremo a capire che anche nei nostri movimenti politici dobbiamo inserire questa differenza di prospettiva e dopodiché usare la nostra unicità per metterci in rete, però una rete basata non su uno scambio e basta, ma appunto una condivisione. La condivisione non è scambio, la condivisione è qualcosa di molto di più. La cura non è scambio, è qualcosa di molto più importante. Allora, a mio parere, non sarà più importante ragionare in termini di movimento di massa, ma sarà importante ragionare in termini di, guarda caso, poi voglio dire qua, la parliamo lunga, cioè di network, di scambio e di continua creazione di legami tra però realtà che si riconoscono come diverse. Riconoscere la diversità non è un male, è un bene, perché in questo modo io vedo la differenza e sono curiosa e posso scoprire delle cose nuove. Se invece faccio finta, come alcuni dicono, è sbagliato ragionare sulle diversità, tutti devono essere uguali, e così ti fotti. Iscrivetevi al canale Telegram, ce ne sono due, uno è il Newswire e l'altro sono i video. Due canali Telegram, uno il Newswire, l'altro i video, e poi vabbè c'è il sito e poi c'è anche una pagina, un account Instagram. Vuole. Grazie. Grazie. Grazie a voi.